sei qua. Claudio. Claudio, ci sei Claudio? Claudio, ci sei? Si è affacciata anche la legge, quando sono uscito ieri sera, no? Sono salito perché avevo una riunione condominiale di falegnameria eccetera, e arrivate via davanti al città mercato, è cominciato a nevicare, ho attraversato la bretella lì della Croce, poi sono arrivato lì al ponte, all'ingresso del ponte, no? Non ce n'era più. Nel frattempo aveva già appiccito anche per terra la neve. Che bella che era, ragazzi, dai, la strada bianca bianca. Perché nella parte, la parte alta io non ne ho visto, perlomeno non ho nevicato, né qua neanche in campagna, niente. Sì, ma c'è stato, ma è durata, come è durata? 5, 6, 7 minuti o di più. Tempo di arrivare, dunque da città mercato, prima stava nevicato, è incominciato la neve cionda, poi è cominciato a fioccare veramente, tutta la bretella ho fatto, poi Santa Maria di Pisa, lì, fino ad arrivare all'ingresso della cosa, come si chiama, della ferrovia che c'è lì via Pasqua, no? Lì stava nevicando, lì è smesso, ma tutto per vedere quanto era bella questa cosa. Ma finalmente un po' di neve, invece uia, era solo un'illusione, perché sul resto della strada non c'era niente, solo più o meno stava un po', ma niente di più, mentre lì in quel tratto di strada c'era anche la neve, e devo dire che lì nella l'erba, attaccata ai muri eccetera, no? Già si vedeva, anche al ritorno c'era ancora la neve quando sono tornato, dopo un'oretta. Ho sentito, io stavo ascoltando il PMR e a parte appunto stavo dicendo che stava nevicando lì a Latte Roche, cos'è strano, a parti alte non ha fatto niente, evidentemente ha scaricato lì e vabbè, è freddo, c'è un bel freddo, infatti devo uscire, però non esco perché, ti ripeto, sono tutto messo male, preferisco rimanere a casa. Beh certo, se non stai bene è meglio rimanere riservati, non so mai, ossia che si prende l'influenza, invece se a caldo passa subito. Sì, ma è così, ma per dire, no, quanto è la strada la situazione. Incontrato di strada nel campo, invece tutto il resto, che ha fatto che era di strada, infatti ero con mia figlia, perché eravamo lì alla riunione condominiale, perché dobbiamo fare il tetto nel palazzo, no? Cioè di fare il tetto, dobbiamo. Perché si è abbassato, siccome il tetto lì è fatto in legno, e sai, il sottotetto più che altro, c'è lì in quel palazzo, e i legni si sono tutti pianati, abbassati, no? E allora il condominio hanno deciso di fare bene il tetto nuovo, o perlomeno di eliminarlo e farlo a terrazzo tutto quanto, così almeno si risparmiano parecchi soldi. Infatti abbiamo già due preventivi e ne stiamo cercando un altro, naturalmente questo è un lavoro che si deve fare a tempo buono, non adesso, ma tu lo sai che quando si tratta di fare lavori per il condominio, se non le paghi qualche mese prima non ci riuscirà mai a farlo. Ma che è pulito d'accordo, anche qua i lavori che si stanno ancora ultimando, però per esempio ieri ci siamo fermati perché c'è troppo freddo, l'autoscala, capito, si può rompere qualche tubo idraulico, e allora ci siamo fermati, cosa c'è brutto, mi asciuga i capelli. Buonanotte, non la devo usare la Iana. Sì, cazzo della testa fuori, si è convinto che si asciuga subito. E vabbè, è ovvio. Sì, ma è così, no? No, perché abbiamo già due preventivi e ci hanno chiesto 55.000 euro per rifare il tetto, mentre invece se lo facciamo a terrazzo, e cioè smantellare il tetto e fare le cose, come si chiama, il risolamento su, no? È più farlo a pavimento, così a terrazzo, e ci hanno chiesto 40.000 euro. 15.000 euro in più per fare il tetto. Il preventivo nostro è 48.000 euro. Come diciamo in tanti, sono 480 euro a testa, meno male. 48.000 euro, tutti sotto fogioli, muretti, fogioli, cornicioni, tutto stanno ripristinando, perché le facciate sono ancora buone. Tutto all'interno, tutto all'interno. Interno e esterno, lato strada, eh. Infatti lato strada ancora non l'hanno fatta perché stanno ancora lavorando all'interno. 48.000 euro. E costa, non costa. Poi la Toscana costa, al giorno costa. E vabbè, comunque era da fare, tanti anni che non facevamo niente, ma ci siamo salvati perché l'ingegnere ha fatto una verifica sulle facciate, le facciate sono ancora buone, perciò stanno ristrutturando solo i poggiori, interni, esterni, queste cose così. Ok, ho capito. Sì, certo. Ma il palazzo dove sono io è già 50 anni costruito, per cui siamo già per il 51esimo anno, dai. È chiaro che dopo tanto tempo, manutenzione, sì, avevamo fatto una ventina d'anni fa, avevamo fatto la facciata, è ancora già in buone condizioni. 20-25 anni fa abbiamo fatto la facciata da una parte, però ci sarebbe da fare anche la facciata dell'altra parte, cioè dietro, dove non è sulla strada, insomma. Aspetta, prendo la televisione. Ecco qua, però risulta. Stavo dicendo, per cui il magianillismo chiaramente ognuno di noi deve parlare, siamo sette proprietari in quel palazzo. Sette viene un po' pesante, no, noi fortunatamente siamo tanti, sono erano 4.800 a testa, invece sono circa 500 a testa. E vabbè, abbiamo questa dall'87, l'87, una volta solo abbiamo, ma dei ritocchi delle facciate interne, l'esterna non è mai stata fatta, però adesso c'è il ripristino dei poggioli, ringhiere, insomma, sostituire le cose che vanno sostituite, e vabbè, fatto buco, il condominio è così, sono stato il condominio. C'è niente da fare, no? Lavori ce n'è sempre, anche perché l'usura è quella che comanda, poi noi siamo vicini al mare, come tu, quindi, anzi, come recinzione, come ringhiere, hanno ottenuto anche troppo, però i poggioli sono tutti da scrostare, rivedere, eccetera, e già a metà lavoro, dai. Penso che a fine gennaio abbiamo finito tutto. Certo, una cosa è certa, se poi lasciamo così i lavori che non si fanno mai, se va a finire che la casa si distrugge, chiaro che bisogna fare la manutenzione, i lavori quando ci vogliono bisogna farli, solo che si sa, non so tutti che hanno disponibilità, per cui sai, diciamo i più propensi a fare lavoro siamo in quattro, ma sono gli altri tre che non forse non hanno le possibilità, non lo so qua, è fatto stare, e ancora già va bene. Sì, anche da noi, non pensare che. Infatti noi fortunatamente abbiamo un buon amministratore, perché quando c'erano queste cose che c'è poca possibilità. possibilità da parte di condomini, e allora li aiuta, capito? Il lavoro va fatto, va tutto pagato e poi piano piano loro rientrano. La metà del condominio, per dire, anziché essere 100, gliela metterà 200. A 100 a 100 li fa rientrare. Se no, come fai? Se uno non ha, non ha. È inutile che andiamo a girare. Capito? Noi ci accodiamo, quelli che abbiamo la possibilità, ci accodiamo le spese e poi pian pianino si rientra, capito? Beh, certo, per effetti è così. Vabbè, comunque, se ce la sa, se ci trascuriamo è ancora peggio, perché poi cosa succede che magari devo fare bello palazzo, però, e poi il tetto si sa, entriamo in parte tutti quanti, delle spese, per cui, ma io già ho pochi millesimi, per cui a me non me ne frega niente, già non so adesso quanto dovrò sborsare, però io gli ho detto facciamolo, non è... aspettiamo tempo buono e lo facciamo. Sì, sì, però ci sono queste tre famiglie, soprattutto quella che c'è a fianco a me, c'è un altro magazzino, no? E questi ci vivono lì addirittura, nonostante che hanno la casa, c'è una donna anziana che ha avuto due o tre volte un ictus, ha avuto qualcosa del genere, no? E hanno l'appartamento lì alla cosa dei ferrovieri, alla Tenoce, no? Hanno un appartamento con garage e tutto. Però cos'è successo? Che avendo avuto questo malore, questa donna, ogni tanto, questo a quanto mi ha detto la figlia, hanno bisogno di portarla urgentemente all'ospedale, no? Siccome la casa ce l'hanno che è al primo piano, ci ha portato giù perché c'è la figlia e il genero e basta, niente di più. Un ragazzo che tra l'altro sta anche vivendo secondo me dalla pensione di questa donna. E dice, noi c'è qui nel magazzino, la macchina è davanti, la prendiamo, la mettiamo nella macchina e la portiamo all'ospedale. Ma a parte il fatto che secondo me rimani, perché se tu vivi intanto in una casa come si vede, no, non è un magazzino così calato che se lo vedi, per carità, non per criticare nessuno, ma non si può vivere in un magazzino così. Forse è stato almeno messo in ordine, messo a posto, beh, allora è diverso. Però loro l'ha preso diversamente, cosa vuoi che ti dica? Chiami il 118 e la donna la portano urgentemente in ospedale se ne ha necessità. E invece da no, ma i motivi forse saranno altri, noi non li possiamo sapere, per cui tacciamo e basta, e cosa vuoi fare? Sì, a volte i motivi non si sanno, però si tratta sempre di possibilità. Se uno non ha la possibilità, non deve stare lì a tricche tracche, perché così, te l'ho detto, da noi ci sono queste persone, si cerca di dare una mano come si può, però non è che puoi fare molto, e si va avanti, i lavori vanno fatti, Giulio, vanno fatti, perché poi se li trascuri è ancora peggio, allora ti costringono a farli, i vigili del fuoco, il comune, eccetera. Noi avevamo degli alberi che sporgevano nella strada dalla recinzione, dei pini, e abbiamo fatto la domanda alla forestale, sono venuti, hanno fatto il sopralluogo e ce li hanno fatti tagliare, capito? Avevamo delle palme che non erano più sane e ce le hanno fatte tagliare. E attenzione anche dei giardini, delle cose, va messa in sicurezza, perché se l'albero cade, è già sporgente nella strada e va a finire sopra una macchina, sopra una persona e si fa male, capito? Il problema è ancora più grave. Invece tu lo metti in sicurezza, fai le cose fatte bene e tutto funziona. Beh certo, ci mancherebbe altro, tutto bisogna fare con giudizio le cose, quando ci vuole, non è che poi, adesso questo fatto del tetto, cosa aspetti, che crolli definitivamente, che che vanno a finire nell'appartamento dell'ultimo piano. Per te non prendermi, non è uno scherzo, suppone il caso che si rompono le travi, perché ci sono le travi da muro a muro, no? Ci sono, però è marcio proprio dove c'è l'appoggio sul muro, se si sono cammini tutto il peso poi cade sul tetto dell'appartamento, cioè sul solaio dell'appartamento, ma brava, sono problemi grandi, non è uno scherzo. Cui è una cosa che bisogna fare. Io ho detto facciamo adesso, in fretta, voglio dire, appena inizia il tempo buono. Subito qualcuno mi ha risposto, fai fretta tu a fare le cose così. È una cosa di fa, quando lavori hanno bisogno di essere fatti, bisogna farli. Vabbè, però devo pensare anche agli altri. Io non devo pensare agli altri, io devo pensare a me. Agli altri si devono pensare agli altri, certo, non io. Però io poi ho capito, no, intendevo dire che io non ne ho possibilità, capito? Ecco cosa intendevo dire. Infatti, non te l'ha detto ma te l'ha fatto capire, quindi a un certo punto si va con le cose di solidarietà. E vabbè, ma qua comunque si sta bene, sono 20 gradi, ma domani devo morire di freddo, perché te l'ho detto, non sto bene, sono tutto dolori, non riesco a piegare la schiena, ma vabbè, pazienza, non si è inteso nessuno ancora, vabbè, che lo so. Ehi, siamo 5 e 4, ancora è presto. Sì, è 5 e 20, per 21. È 5 e 21. Cos'è? È CV doppio, stai ascoltando. In 40 mesi stai ascoltando il CV doppio. No, è la coda del ponte VHF dell'R7 Alfa. Ogni tanto parte un CV doppio, ti dice appunto il ponte che ti ascolta, e c'ho le V tutto acceso. Mio cognato, ci ha messo in mettere la macchina, è una ghetta che me ne ha pigliato la macchina, sì. Mi devi fare il piede per la resistenza. Eccomi qua. Vabbè, ha detto che ci faceva altre un paio di commissioni e poi me la riportava stasera. E una ghetta mi si era pigliata, questa è una macchina che mi serve, mi va a lunedì, oggi è venerdì, a Betadù. Certo, dai, quello che ho detto io, facevo il pieno, mi fanno il pieno prima di portare. Vabbè, guarda, vuol dire che mi serviva, gliel'hai data, ma adesso, se te l'ha chiesta vuol dire che sapeva che te l'avessi data, per cui che ha problemi di so. Vabbè, comunque, come se si è un poco gruppo, la guida, posso capire, due giorni, vabbè, se lo potrebbe anche andare bene, ma una settimana è seguito, insomma. Vabbè, sei già giovane, Claudio, e cammina a piedi, vabbè, la bicicletta, la bicicletta. No, non è per quello, io già esco anche a piedi, però quando sale scendi, che vai in campagna, c'è cose da fare, la macchina ti serve, capito? Anche stamattina dovevo fare delle commissioni e le ho fatte correndo con la macchina di mia figlia, perché a mezzogiorno lei entrava a lavoro, capito? No, la sua lì si è rotto il cambio, cioè il cambio automatico, capito? E quindi è lì all'Audi, cioè macchinoni quelli grandi, è lì all'Audi, la stanno mettendo a posto. Andò in 3 chili, pensavano 2-3 giorni, invece ancora non è finita, non è pronta, gliela danno martedì o mercoledì, però gli ho detto a me sabato e domenica non mi lasciare a piedi, poi se la arrivo lunedì viene, te la prendi quella piccolina 1600, capito? No, la grande non gliela do, la grande meravigliosa, ma così ci fa la domanda in greco dei ragazzi, fatto quella piccolina, tanto lui è in città, capito? Perché lui è lì a Predanieda, al ZIR, come si chiama? Negli uffici del ZIR, della zona industriale, è funzionario lì, anzi, funzionario, è vice commissario, perché è commissariata quell'azienda. e quindi le serve per scendere in ufficio e basta, poi rimane sempre lì. Se si deve spostare, c'è la macchina aziendale, c'è la macchina, se deve andare fuori lo accompagnano con la macchina dell'ufficio. Però per muoversi, perché lui abita su via Pietro Nenni, salendo per andare a Ogilo, capito? E quindi per andare lì, per giù la Duncia. No, è già la controllo, perché benzina ce n'era più di metà. Se mi la do a secco non ne dogo più. Perché se vai in Bucareto, visto e considerato che i parcheggi non se ne trovano più, ti ci infili dentro e ci stai, mentre invece con un macchinone grande, stai 2 ore, gira, per quello io che vabbè, ormai io anch'io ho una macchina piccola, prima avevo, se me ne sei, avevo della Vectra, era grande quella con la macchina, ci voleva un bel po' di spazio, ma da quando sono in pensione poi, io adesso vado in pensione, mi vedo una macchinetta e mi va benissimo quella, che poi tra l'altro la uso anche poco, cosa uso? Da qui a Sassari e da Sassari a qui basta, non devo camminare in città e macchina. E dunque quando trovo un buchetto già entro, mentre invece con l'altra, che ne vediamo a lui di parcheggi. L'altra era, a parte il fatto che consumava, direi Dio, era una macchina, consumava moltissimo, bella macchina. Funzionante, ma 300 euro intanto mi avevano chiesto per la trasformazione e poi me ne sono anche pentito, ho fatto ma la potevo anche regalare, gira, anche che distruggere la Marcello, ma comunque andate a usci pazienza. No, ma macchine così come la tua, anch'io la tempra l'avevo data a un ragazzo che la volevo demolire, ma era marciante, perfetta e che era già anzianotta. Capito? Quando avevo preso l'altra e l'ho data a un ragazzo, ho detto fai il passaggio, avevamo fatto il passaggio direttamente a Lacci, avevo pagato anche poco, gliel'avevo regalata perché era pieno, capito? Quando la macchina sono marciante così non ne do a tavoli, o se non cammina più allora va bene, se è fusa, se non cammina più, se la macchina è marciante che va bene, assolutamente. Io volevo cambiare quest'anno, anzi a me non me l'ha fatto nulla, perché ho fatto come hai fatto tu, mi ho preso la macchinetta piccolina per città e mi soddisfa tantissimo, mi sposto, faccio, la lascio i bimbi Biasi, però mia figlia voleva cambiare, ha detto cosa cambi se la macchina ancora va bene, cammina, è nuova, c'ha gli interni tutti in pelle, è nuovissima ancora la macchina, cosa devi chiamare? Tienila ancora, fino a qua non si ferma, quando si ferma si va, si chiama caratrice, rottama e prende nuova, che buttarla via una macchina, si cammina, io ho 300 euro di 1000 km, ma è un gioiello l'Alfa, perché la devo volare? La macchina è costata 26.000 euro, quel modello lì, tutta con l'interno in pelle, tutta super accessoriata, eccetera, cosa devi dare? Non tenante, allora tavoni, si ne buca tutti i pezzi, magari anche il motore che ancora cammina e si lo vendi, e a te non ti date manco un cito, no, io la macchina la rottiamo quando non cammina più. Sì, beh, in effetti, anch'io ci ho pensato dopo, ma siccome l'avevo fatto per la nuova, questa Citroen, la C3, mi costava, in contanti mi era venuta 9.700 euro, e ho detto, anzi loro mi hanno chiesto, è la vecchia macchina, l'avrebbero andata male, ho fatto, beh sì, non me ne faccio niente, anche perché a casa ne abbiamo già anche un'altra di macchina, per cui avevamo già la Ford Fiesta. Se devo tomare possiamo fare noi stesso, quando ho detto loro. Sì, ci deve aggiungere 300 euro. con 10.000 euro totale si prende la nuova e ritorniamo la vecchia. Vabbè, facciamo così, va tra. Non me frega niente, magari se sarei andato io, insomma, avrei speso anche un po' di meno, però tutto sommato non ho perso tempo, eccetera. Poi cosa ne hanno fatto non lo so, ma suppongo che l'abbiano rottamata. Infatti è stato così, però stanno preso 300 euro. Io gli ho fatto l'assegno da 10.000 euro, gli ho fatto. Mi hanno dato la C3, dopo 15 giorni, ma la dovevano dare dopo 3-4 giorni, invece gliel'ho fatta di 15 lì. Nel frattempo avevano già anche tutti i soldi loro. E sono venuti e stanno preso la cosa, stanno preso e stanno portata via a nostra mamma. Sono venuti con caratristi. Ma cammina, sì che cammina la macchina. E vabbè, dice, veniamo noi con il nostro caratristi, quello con Palonini, no? Capito? E così hanno fatto, fate come vi piace. Poi dopo un po' di giorni già mi è arrivato il foglio di reclamazione, cioè sono andato a lavoro, se sono ritirato, adesso venga tra un 20 giorni e così vediamo il foglio di reclamazione. E sono andato magari dopo un mese, però già me l'hanno dato, evidentemente l'avevo reclamata la macchina. No, beh, non posso tenere. Se la rottamare, la rottamare. Io avevo lavorato a questo ragazzo, tra l'altro siamo visti l'anno scorso e mi ha detto che l'ha rottamata proprio l'anno scorso, quindi immagina già di due quanti anni gli è durata ancora quella macchina. Dice, l'ho rottamata l'anno scorso e ho preso un'aziendale qua. E addirittura ho preso anche l'incentivo di rottamazione, figura di due. Detto, hai fatto bene. Sono contento perché mi dà fastidio, ti dai una macchina da buttare via e poi vai a prendere un pezzo e te lo fanno pagare uno sportello 100 euro, uno sportellone 100 euro, cioè ci vendono tutti i pezzi, capito? Quindi perché da rottamare la macchina non deve essere tutta. Un amico mio ce l'ha già fatto, c'aveva la macchina da rottamare lo stesso. Bella, nuova, internamente è nuova, esternamente è un po' di ruggine, colpi non ne ha mai preso, incentri non ne ha mai avuto, ma all'interno nuovo. Mi ha detto, devo rottamare la macchina, ma vieni a prendermi la Mercedes, l'ha rottamata lui però. Poi vabbè, vengo a prenderti. E sono andato a prenderlo ed era tagliando tutti i sedili, ha fatto i sedili tutti a pezzi della taglierina. Ti ricordi come si sia? Beh, da un'altra giornata, tutto c'è un pazzo. No, che si direte si rivende nel minimo a 200 euro l'una. Invece, da un pazzo ce li buttano, capito? Non gli ha lasciato niente dentro, nulla, tutto è fasciato. Tutto sommato ha fatto bene, guarda, perché è vero che si vendono i pezzi poi loro, con che fatto che si vogliono pagati per la rottamazione. Per cui ha fatto bene. Lo so, una volta invece pagavano loro quando gli lasciavano la macchina, e mi ricordo io avevo rottamato altre macchine tanti anni fa lo stesso, e dunque mi avevano sempre pagato, sì, però mi davo al bar della mia cattedrella allora lì, dove c'è il Montinedo, dove c'è il PAM adesso non è più Montinedo, è il PAM, se ne vuoi studiare all'interno, c'era il bar, c'era, che poi tra l'altro era anche il mio cliente al bar. Togliamo la batteria e le targhe e gli lasciamo la macchina, ne pagavano anche. Invece adesso, caspita, adesso vogliono un sacco di soldi. Per il motocarro lo stesso, che l'ho rottamato, saranno 3 anni e mezzo, il motocarro del lavoro che avevo. Ho pagato 180 euro per rottamare il motocarro ed era funzionante al 100%, era proprio, anzi ti dirò di più. Avevo anche verniciato tutta la cabina e tutto il cassone, tutto riverniciato nuovo. Poi ci ho rispettato e ho fatto, ma cosa me ne faccio? A pagare 650 euro l'anno di assicurazione, più il volo, ma cosa me ne faccio? Ne spendo 180 euro e l'ho rottamato. Da Marcello. Mentre invece Sabuni ne voleva 250 per rottamare il motocarro. Era una moto che andava molto bene, ce l'avevo tanto. quanti anni, mi sembra che avevano 32, 33 anni. Oh, è ancora funzionante, perché io la tenevo bene, era un pezzo di lavoro, per cui me la tenevo benissimo, capito? Sì, io l'ho conosciuta quella, quella che ci è venuta qua quando mi ha portato i piani, le basi per la scrivania. Ah, me la ricordo. E vedi, quella andava bene. Per uno che ha una campagna, aveva trubassaggio e le serviva per campagna. No, ma ci sono a volte cose che non conviene rottamare. Lo sto dicendo. E facciato tutte le sedine, una buca tutta la roba nuova. E niente, non mi ricordo se ha tolto anche il motore, ci ha messo un motore fuso, perché il motore era ancora buono. Comunque non gli ha lasciato niente, proprio da buttare via. Infatti, ma io ci ho pensato, perché avevo rivendicato anche tutta la moto, dopo sono andato, me la metto a posto questa moto, e così ancora, invece poi alla fine mi hanno convinto a casa, ma questa cosa ti sei messa a vendicare, ma abbandona tutta, cosa fai, basta con i soldi. E dunque a questo punto non devo usare la nota bassa, perché intanto poi non lavoravo più, perché se dice 150 euro solo l'assicurazione, pagavo più di dare molto caso che della macchina l'assicurazione, molto di più, non poco, perché lì no, la sera sono sconti, lì no, sono macchine a lavoro e costano, l'assicurazione costa molto. E allora poi è andato, pazienza, dai, se quella cominciata la devo nota male, e mia moglie, poi c'è pazienza, lo dicevo io, l'hanno cominciato, lui invece che si è interessato, se te l'avevo iniziato, vabbè l'avevo fatta io, non è... però intanto la ditta la devo parare, il lavoro l'avevo fatto, per cui, e l'ho consegnata, non la farò dubbio di su, la prima cosa che mi hanno detto, ma il motorino a violento funziona questa moto, che vuol dire funziona, se ti devi buttare una moto, se ti hai portato una moto, funzionante, ma cosa mi devi dire, è chiaro che funziona, tutto funzionava, le luci, tutto quanto, e andavo a vedere i freni, anche l'avevo messo a posto anche da poco, l'avevo messo a posto perché quindi avevo fatto fare la riparazione del Giulio Murito, infatti l'avevo detto a lui, ma poi Giulio te la porti in campagna come hai fatto per la carne, cioè, perché gli avevo fatto una volta una carne che gli avevo dato a Giulio Murito, no, te la portata in campagna e la usava in campagna per trasportare i bocchetti da una parte della campagna all'altra quando si è fatto il muro di recinzione. Dunque se li ha trasportati così con la cane, se la offre il cane, quella lunga, quella con le lunghe, ho avuto anche quella. E non c'era un coso di luce, niente. E nemmeno la maroffa quando facevano tamare dalla Citroen, non c'era una pompa di luce, niente. Erano in ottime condizioni. Il motore, sì, aveva un bel po' di chilometri, aveva oltre 200.000 chilometri, però era in perfetto ordine, funzionava benissimo. Ma perché tu pensi che col motocarro Lola non è morito? Se gliel'hai portato in moto, non è bugato la targa, capito? Hanno versato le targhe e lo tengono dentro l'azienda per trasportare materiale, pezzi di motori e cose varie. Perché è successo anche a una furgonetta che gli aveva dato sempre un mio amico. Avevano borsato le targhe, avevano dato cose di rottamazione, poi è capitato che un giorno è andato a prendere pezzi, a chiedere dei pezzi, e ha avuto la furgonetta gioia, senza targa, senza nulla, tutta carica di pezzi, e si spostava all'interno dell'azienda, capito? Sì, ma io ci sono tornato proprio dopo almeno due mesi e mezzo, anche non me ne ricordavo più di andare a ritirare il foglio di rottamazione, sono andato e la moto c'era sempre, e vedevo che c'era sul cassone, c'erano dei pezzi stesso di macchine, c'erano. Infatti ho immaginato, sta a vedere che questi la usano qua all'interno, dentro il loro salvamento, qua proprio per trasportare i pezzi da un posto all'altro. Sicuramente hanno fatto anche con la moto così, perché funzionava, andava benissimo, non funzionava, andava benissimo, e poi era anche veloce, quella moto, perché era un po' elaborata, dai, da Giulio Murito. Cos'era? Diesel, no? No, miscela era, infatti mettevo la benzina e poi ci aggiungevo uno, mi aveva dato fatto un misurino, Giulio, ma aveva fatto me, si deve mettere questo tanto di tu metti sempre il suo il tuo tanto di benzina, mi diceva, no? E metti sempre questo misurino con l'olio. E infatti lui me lo vendeva, Giulio Murizzo stesso me lo vendeva. E lui dice, quando ti ho cuore l'olio, vedi qua te lo do io. E me lo vendeva lui. Anzi, tante volte me l'ha anche regalato. Però poi non mi andava così, perché lui lo comprava la Roma lì da sotto. E poi, fatto lui stesso il misurino, metti a questa misura metti l'olio, quando metti la benzina ci mette questo, perché ormai il glicerolo non c'era più, vendevano solo benzina, capito? Sì, allora quelli lì erano senza il coso. Due tempi era quella lì. Adesso ormai era molto così, sono tutte e quattro tempi, oppure sono diesel. Però c'aveva una bella forza. Caricavi, trasportava tutto alla grande. Quella tua era cos'era? 600 era? Sì, di cilindrata era 500 qualcosa, adesso non mi ricordo quanto, boh, 520, boh, una cosa del genere. E comunque siamo lì, siamo. C'è stato un periodo che ne avevo due di motocardi, Perché? Perché ne avevo due? Per il semplice fatto che mio fratello, anni addietro, aveva un negozio di bombole, e aveva, no? Oltre a averlo, ogni anno aveva anche un negozio di bombole. Ha chiuso il negozio delle bombole perché la moglie non ci voleva più stare, dice, il negozio, e la moto l'ha data a me. E dunque ne avevo due, avevo anche la moto quella a quattro ruote, con un cassone lungo, eccetera, no? E avevo anche quella, avevo. E poi alla fine, un bel giorno, l'ho data a mio fratello per fare un trasporto, non so cosa, il caso voluto che gliel'hanno rubata. Quando era sempre stata lui, però, io la lui me l'ha data, ma non avevo fatto né passaggio né niente, la usavo e basta. Della rubano, e l'ha trovata dopo 15 giorni sbattuta a un palo della luce, tutta in facciata davanti. Evidentemente avevano preso un motocardo, chissà per quale motivo, forse per andare a rubare qualche negozio, che ne so. E l'hanno trovata poi la polizia dopo 15 e anche più giorni, forse anche più di 15 giorni, sbattuta a questo palo, tutta in facciata, la gabbina era distrutta. Te lo immagini? Sì, ragazzate, sono. Ragazzate, ma era nel bigliato, va a farsi un giro e era nei cuttare un muro. Vabbè, perché no, quella vanno bene, caspita, quelle sono molto robuste, quella a quattro ruote col volante, tu c'avevi quella a tre ruote col manubrio. Quelle sono molto robuste, caricano parecchio. C'era il mio bombolaio quella lì. Vabbè, c'è anche il fiorino, il pick-up, però c'è anche una di quelle. E funzionano molto bene. Sono a gasolio, mi pare siano 900 cilindrate, vanno molto bene. Però ti ripeto, quando le porti a rottamare devi buttare tutta la roba buona, se la vendo, capito? Ci guadagniamo una barca di soldi, infatti. Guarda tu, Marcello, due tavoni, cosa sono? Due di navani. Sì, un sacco di soldi hanno con la gente, sì, un sacco di mezzi anche che affittano, addirittura affittano tavoli, ne affittano addirittura i cassoni per il rotame che fanno le strade, lavori delle strade. In questo periodo che hanno fatto adesso gli impianti della fibra, no? Per il telefono, lì nella zona del Monte Rosello, c'erano parcheggiati nell'angolo di via Pietronica, c'erano parcheggiati i cassoni e c'era scritto tavoni, c'era scritto, ma immagina tutto un cassone di un camion, quello che lo sollevano, lo mettono sul camion per andare a buttare, e sono un cassone grandissimo. Evidentemente se si è affittato tavoli vuol dire che loro l'avevano preso un'azienda che aveva fatto i lavori sulla strada per fare la fibra, ma l'ha affittata da tavoli sicuramente, perché quando aprivano la strada con quella pala meccanica o cosa è, la prendevano e la buttavano dentro questo cassone che era parcheggiato lì tutto all'angolo del Pietronica, per dire, no? Io lo so. Quando è? Ieri? No, mercoledì, avanti ieri, sono andato lì per prendere le buste, sono andato per Daniela, le buste per la mondezza, no, perché se la, per cosa, per la differenziata. Quando sono andato lì, mi sono assustato, è in quella piazzale dove c'è il coso del comune, dove distribuiscono le buste, tutto pieno di macchine, tutto savoni, tutte savoni con la scritta, no, negli sportelli, eccetera, anche macchine grosse di camion. Ti stavo dicendo, sono andato lì a prendere le buste, quando sono arrivato ho guardato dentro e c'erano, come minimo c'erano, senza esagerare, ma c'erano almeno 70-80 persone, e io mi vado in obbligo a prendere le buste, vai, continuo a comprarle come sto facendo fino a oggi, no, non mi sono arrivato lì, ma manco bisogno, dovevo fare la busta, la prima per cosa, per magari per comprare un pacchetto di buste a 1,20€, 1,30€ quanto costa, io li compro sempre le buste per la mondezza, no? non prendo mai quelle del comune, oh, non ne vale la pena, guarda. Non ne ho mai preso, io non giuro la stessa cosa. Io quando vado all'Eurospina compro quelle grandi, quelle medie, quelle che mi servono. Sono pacchi da 20 e basta. Se tu lo dici a quello che hai salutato ieri, a Rosario come te le procura, alla grande, capito? Te le procura lui, a me me le aveva procurate, me le aveva dato una scatola intera tanti anni fa. Quindi, però ti ripeto, anch'io non so neanche dov'è la distribuzione delle buste, figurati, no, proprio non lo so. Perciò io me le compro, io anche lì il mio vicino in campagna mi ha dato lo stesso un pacco di quelle grandi da 110 per mettere dentro tutta l'erba, tutte le foglie, tutte le cose, capito? Quindi a casa ho quelle medie, da quelle da bidone di spazzatura. Basta, io con quell'amico siamo andati insieme, no? Perché anche lui abita a Sant'Orsola 2 e dunque anche lui doveva tirare le buste. Quando abbiamo visto, io non mi metto lì in fila io per la puzza di qualche euro così, ma non me ricompro cosa, e anche io faccio così sempre, sto facendo sempre così, ricompro. Infatti ne abbiamo qua un cestino pieno di buste, perché li compro quasi tutte le settimane, si può immaginare. Poi adesso nel nuovo negozio che c'è vicino a casa, LB, mi viene anche meglio, è più vicino, e dunque se dovesse mancare, sono a 200 metri nemmeno a casa, c'è questo nuovo negozio, li compro lì, li compro, e compro anche di quelli con le bretelle, che hanno le manici lunghe, così viene bene anche a prendere la busta, senza stare a legarla con le gaccio. Anche perché quelle buste che c'è la mondezza, quelle per l'umido e quelle per il secco, sono troppo piccole, no? Non va bene, non vanno bene. E allora preferisco comprarle e dunque non se ne parla più. Tanto non mi fa più paura quando compro un pacco di buste ogni tanto, di varie misure. Tanto quando consiglio mi ci metto la benzina e il tempo perso e mi costa di più. E domani per un barato di chili? No. Ma non so ma dove sono mai andato io. Avevo chiesto una volta a Marino per dove era, ma l'avevo detto, ma non sono mai sceso. Sono mai andato. A volte già si procurano quelle. A parte infatti io quando ero a lavoro ce li avevamo per impianti, quindi quando mi servivano me lo prendevo un pacco di quelle insomma un po' più grandette, duravano di più, nessuno le va a dire no, Bosotto la accorciavo, me la fui cassare, non mi interessa, poi qua noi abbiamo i cassoni, quelli della differenziata, quelli grandi, quindi non c'è problema. Per l'umido ho quelle piccole, ma sempre comprate da me, non sono mai andato a prenderle. E vabbè. Oh, mi dugando, sto pensando che quando devo uscire a portare il cane, era un freddo rimane, ma freddo, ma ho poco cuffia. giacchetta, guanti, giubbotto pesante, ma c'era un freddo, poi ti fa stare mezz'ora girando, annusando, facendo. Usciamo mentre noi, se la siamo vende andiamo la fermo, no, e dovevi prima farsi tutto un giro, annusare, sondare e poi fai i suoi bisogni. Di fronte dove c'è la Mercedes, la presa niente, lì di fronte c'è un negozio di igiene alimentare, non so come si chiama, forse Dix, quel negozio, e lì c'è più avanti, in quella specie di piazzetta, tutta la carta piena di frambuie, alle mani, perché tutta la strada è tutta piena di mucche, ma cari dai, ma se vuole di un, non ci vengono più, la prima volta che sono andato lì, prima invece la distribuivano giù, puntare in un golbo, giù dove c'era l'inceneritore una volta, c'era lì, e prima, dove ci sono praticamente tutti gli spazzini che vanno lì e prendono il servizio da lì fatto, erano lì prima, poi hanno trasferito il posto dove distribuiscono le buste, ma lì non c'ero mai andato, la prima volta, anzi io non sapevo nemmeno che era lì, perché siamo andati insieme a Antonello, questo amico, lui lo sapeva, io andiamo insieme, siamo andati e poi invece non ci siamo nemmeno trattenuti. Oh, la rapidità, viene giù detto, ma torno, detto, ma che me la fa fare a stare lì una mattina in fila per cosa? Per la busta magari di 3-4 euro di butti, anche in grande, ma manco male fare idea, di avere una compra che ha comprato. Ma conviene questa una fesseria, Lucia? Costa una fesseria, costa. Io ho preso da poco, ho detto mia moglie, ho detto prendi un po' di buste di Mondezza, e ho preso un pacco di quelli grandi, da 100, capito? Perché magari servono, e poi ne ho preso di quelle piccole da 70, mi pare, una cosa del genere, però oggi ho preso di incluire in tutto, ma tutta sé. Stare lì a stare 2 ore con i cusci, no, lascia perdere. Qua ti stavo dicendo, quella tinta, allora, sono una di giù e l'altra di su, una, due, vabbè, due o tre porte mi sembra che siano, ma quella tinta ad acqua, verniciare dei pannelli di posta non va bene per esterno, no, giù conviene mettere quella a diluente, là. Sì, beh, sicuramente io personalmente preferisco la banana vernice sintetica, sì, per esterno la sintetica regge molto, ma molto di più. Quella di acqua è solo per il fatto dell'odore, però già si usa anche per esterno, già si usa lo stesso. Ma non mi piace, a me non mi piace la verità, soprattutto quando c'è la vernice nel legno, io non sono d'accordo con quella d'acqua, per il semplice motivo che il legno, siccome il legno se tu lo bagni, ti tira sui pori, cioè il legno prima di verniciato va pulito, no? Una volta che va pulito vedrai la vernice sintetica, la prima mano una leggerissima catteggiata con la carta abrasiva, ma con anche proprio per togliere quella specie di impurità che si crea sopra, no? Quando mette la vernice, e poi dai la seconda mano. Mentre invece se la usi all'acqua ti tira su di nuovo tutti i puli, tu passi la mano e sembra una grattugia, tutta rugnosa, per carità, e poi è anche bello coprente, sintetico. Ho già fatto che costa quanto è quella sintetica, forse anche di più costa, o quella acqua, però è bello coprente, e poi rende molto di meno. Oh, i larapesi, se devi tingere poi, se si all'esterno specialmente usa sintetico, qua è normale, prendi tinta osso, cioè della cosa, una sinuil, tinta sinuil, e sei a posto tu. sei come l'altra, non sei come il fratello, se invece trasparente puoi prendere Ozumak, impregnante Ozumak e anche vernice trasparente Ozumak e sei a posto. No, quello lì per fare quella cosa lì ho preso la stomaca che mi hai dato tu, quella tricolore, quella matata del mobile, quella lì. Quella me la uso per darla poi alla fine, e il resto le do quella che mi piace tutti. Una mattina devo andare con questo mio vicino di casa a prenderla, mi abbicco, e ci vado e prendo quella. Allora lui dice, ma intanto sono porte esterne, sono le due porte praticamente, una della tavernetta e l'altra della porta principale che entra casa, però dobbiamo fare solo i pannelli di fuori, i pannelli esterni, perché i pannelli interni sono laccati in bianco, capito? Sono bianche. I pannelli esterni invece sono marroni, dai, erano, però oramai sono scoloriti perché le porte si sono da tanto, col tempo si sono un po' rovinate. Allora ho passato tutta la ballerina, tutta bella lucidata, adesso l'ho passata di tinta, sono due portoni blindati esterni, capito? Uno di giù e l'altro di su. Sì, e faccio così allora, che dai, no, quello vuole, ma cosa vuole? Non si faccia l'odore, stato esterno, o verniceggio, la società, e ti mandi, non è che l'odore ti entra dentro casa. E infatti, è l'acqua, l'unica comunità che c'è, è l'acqua che asciuga subito, e c'è meno odore, che poi se vogliamo, se tu ti tingi in un ambiente chiuso, tingi e poi abbassi la serranda, ce ne vai, quando ritorni il domani mattina l'odore lo sento lo stesso, di meno, naturalmente, molto di meno. La sintetica resiste molto, ma molto di più, sia le vernici trasparenti sintetiche che le vernici pastello. Le vernici pastello sono quelle colorate, no? Grigio, marrone e bianche, queste di bagli bianchi, queste sono colore pastello, mentre invece quelle trasparenti che si vede il legno, quando vernici si vede il legno, quelli sono trasparenti, allora, però sempre sintetica, secondo me va molto meglio. Io per l'esperienza che ho fatto in tanti anni di lavoro ho sempre usato quasi sempre sintetico, qualche volta ho usato l'acqua appunto per provare, quindi considerato che tanta gente ormai si è orientata con la brucia d'acqua, sì, senti meno odore, però anche meno resa, e devo dire che la vernice sintetica copre molto molto di più di quella d'acqua. Poi se appiene la guida l'hanno preso, il vantaggio qual è? Il vantaggio è che se devi allungare quella d'acqua ci metti un po' d'acqua e allunghi, mentre invece con l'acqua sintetica devi avere sia la vernice che il diluente sintetico per poterlo, e quella naturalmente asciuga dopo 24 ore, si deve fare la seconda mano, mentre invece quando è l'acqua tu tingi la mattina, la sera se vuoi puoi dare la seconda passata sopra e asciuga lo stesso i due mani in una giornata, capito, tranquillamente. Ma come resa e come duratura di lavoro, ma un capisabile, è una differenza enorme. Sintetica qua, quando è per fuori. Sì, ma infatti. Ma poi questo è esterno, ti ho detto, quindi non ha nessun significato usare la tinta buona e basta. Sì, no, domani ci andiamo. Andiamo prima al mercato e poi vado a prendere questa tinta, anche se non aiutano, comunque ci vado lo stesso, e così poi la diamo una passatina a queste due porte di campagna a vedere che dovevo riavvare un altro colore, ma ci fanno lo stesso colore, è quel color legno, no? Che c'era, che si è un po' tutto scolorito eccetera, allora si dà la stessa cosa. No, ma tu lo so che usi vernici buoni, cosa? Se tu immaginati, se tu vedi le basi, quanti anni è che le hai fatte le basi della sala radio che ho io? Tutte e due, perché ne hai fatte una prima e una dopo, ma a distanza di poco tempo. Sono lucide, lucide. lucide, come giorno cambiare latte, non hanno mai scheggiato, non hanno mai lucide. Certo, andiamo qui, facciamo quella diversa la vernice, quella vernice poliuretanica è diverso, quella per esempio non va bene, perché col tempo diventa opaca, diventa col coso, cioè diventa bianca, non opaca, si imbianchisce il fondo e dunque non va bene. Sì, c'è anche la poliuretanica, quella che per esempio comunque, ma oggi lo stanno facendo, anche per esempio. E se lo dice, quella è un'altra cosa, quella va fatta spusso, intanto non a pennello, perché a pennello si rimangono le righe, quella va fatta spusso. E se per quello tu immaginati, ecco ad esempio, prendiamo l'esempio di casa. Io ho la scala di legno in casa, ho un salone che sale a mezzanotte e poi da mezzanotte alla mattata. Io ho due scale di legno, una è al giorno, non ho la lampa normale, l'altra è l'inizio al giorno e poi la chiocciola che sale sui mattata. E tu vieni a vedere questa scala e è 15 anni e oltre che è fatta da quando sono qua e ci facciamo noi con le scarpe tranquillamente. Anzi, quanto io scorso che ho fatto anche l'isolamento bene dei terrazzi su, si passavano dentro ai muratori con gli scarponi tutti pieni di garraggio, tutti pieni di calce attaccate alle cose scarpe, anche i pulisini che si buchi, salivano così. E devo dirti che non c'è un grasso, non c'è niente, la vernice è quella poliuretanica, quella, ed è sempre lucida, va a stare sempre bella lucida, tranquillamente. C'è da dire questo, il legno è duro, e quando il legno non ha macchie, perché quello lì è coso, il legno è di coso, ma non me lo metto, ma cosa si chiama più, di quella, vabbè dopo te lo dico come si chiama quel legno, non me lo ricordo in questo momento, ha un nome strano, è puzzinoso, quando non lo usi, quando lo stai usando, quando non piange la polvere ti deve mettere la mano a scala, perché sennò non ci resisti dentro, non è possibile. Però una volta che ha lavorato e verniciato è una meraviglia di legno, è oscuro come legno, è tipo color noce però oscuro, ma è durissimo, è verniciato col poliuretano e qua esce una meraviglia, questo è un cristallo bello liscio di lusso. Ehi, tutte e due. A me quando è vero non dico, ma dove l'hai comprato? Dove l'hai comprato? Allora la base, quella rialzata di sopra, veramente chi da minori, dove ci sono i piedi che appunto sono sollevate, non le radio sotto e sopra. Quella me l'hai fatta quando ero in via Pascoli. È sempre lucida anche da lì. Primera, lo stesso. Ma le basi, mi dico, ma dove l'hai comprate? Dove l'hai comprate? A Mascia, le avrei da. Giunture vedi tu, no, questo me l'ha fatto fare niente, nome, cognome e indirizzo, una borsa spettacolare, e tutto sì, lascia fece, ma perché c'ha due piedi davanti, a Bascia di Evelia che vado in media da Razzi, questo smonto tutto, i piedi li piego, e la Bascia, come la Bascia, e la Bascia, vedi che la giornera a muro, e certo quel peso, ma bella ogni adronco che va da Reddo, tassellata a muro. Fenomenale, se sono andato a poco mi avesse trovato questi piedi, no? Questi piedi, perché c'ho una base normale, no? Una base non fatta così, bordata eccetera, che mi serviva appunto per mettere in campagna, per fare lavoro, e tre uomo due piedi in uscita, che sono anche belli, non ne ho trovato, non ci sono più così. Quelli li avevo comprati da Bricome di Città Mercato, quando c'era a Città Mercato Bricome, adesso non c'è più, li avevo comprati, e ogni piede costava 32 euro l'uno, si può immaginare, quei piedi lì, e sono in alluminio mi sembra che sono, addirittura, se ricordo bene, e sono cernierate, certo. Ma quella addirittura se tu non torni nel radio puoi dire ci puoi salire anche tu mi soffro, non ti credi che si sciarano, oh ma nemmeno per idea, figurati, soprattutto come nel mondo come è fatto, anche perché poi a parte dietro c'è quel montante lungo, tutta la cerniera eccetera, no? Poi davanti c'è quell'altro rinforzo, che è un rinforzo tutto quanto in pieno di resistenza, che poi io l'ho modellato e l'ho fatto colore del banco praticamente, con lo stesso impregnante, no? Ma quello resiste, ci può salire anche anche su sopra, e se devi poi dire di ancora, ci vuole dare uomo, mettendosi, sai, ma quello ci metti nella carta, nel cartone sopra, fanno un graffiato, e non hai bisogno di di scala per dire, no, se ci arrivi chiaramente. E quello regge, la moglie ti regge, e voi, basta mettere le radio che ci sono, ma le radio non sono un grande peso per dire, no, però ne hai messe tante, a voglia, non le distruggi così, no, quelli durano una vita intera, no, non ci sono problemi o qua, perché invece il piano di sopra è di Noce Daniela, quello lì erano dei pannelli tabulati che io stavo facendo una libreria una volta, poi purtroppo il proprietario, cioè il cliente, diciamo così, no, era deceduto e mi era rimasto tutto quel materiale. Io ne ho i fianchi, li ho presi, li ho uniti insieme, li ho uniti, però dentro è tutto regno, no? Cioè il confessato si deve fare dall'altra, non c'è Daniela, però dentro c'è tutto un unico traiettore di regno, dentro il tabulato, per cui è molto resistente, non lo do che così, no, lui è sapere. Ecco, è venuto fuori il piano banco per la radio. Sì, ma guarda, è nuovo, tranquillo come sempre. Poi io già usai, sono un perfetto rigoscio. E il peso già ce n'è, certo, non tanto, però la base quella cernierata è completamente piena, c'è un bel peso perché sono due file di radio anche pesanti, sono tutti valvolari e HF, lo sai, io c'ho solo basi, più c'è anche il DAC, c'è l'amplificatore quello grande, dall'altra parte è un po' più leggera, ci sono due linee e poi c'è la parte del computer, quindi un po' più leggera, però il peso già ce n'è, infatti ho caricato molto sulla parte cernierata con i due piedi davanti, l'altra è un po' più libera, un po' di roba l'avevo anche smontata, già messa da parte. La linea quella Alicraft, quella valvolare che è abbastanza pesante, quella lavorata a Capri, mettersela a posto perché è diventata sorda, lavorata a lui, altra roba che avevo, insomma avevo un po' d'acqua lo stesso, tutti i vintage, valvolari eccetera, quindi il peso è un po' calato in quello che hai appoggiato praticamente al cernierato, no? Quello che hai allungato, la L diciamo così, no, è 5,40 m questa cosa mi fa fatta L, non è buccia di yoga. Sì, lo so, è abbastanza lungo, certo, la voglia, è pure profonda all'incirca 60 cm come larghezza di ogni piano, per cui la voglia si regge. E quanto a quello, mi ricordo che sono una parte lunga, dovrebbe essere intorno ai 2,20 mi sembra, non so di preciso, però è una cosa così, più c'era lungo, eppure tutto il resto, quanto sarà stato un altro metro e mezzo, non 1,60 m, non so, non me lo ricordo, per dire, no, sono piedi, 32 euro, lui ha detto 32 euro, ma qui come di città mercato, qui come ormai non c'è più, quello di città mercato, dunque non puoi più trovare qui, e infatti non c'era nessuno, non c'era nessuno a stanza di quel tipo di piedi, perché io li ho visti anche altri negozi, non sono andato, ma non c'era da nessuna parte, assolutamente, e io ormai non ce ne servono altri, quelli che servivano ce li hai, per cui non ci sono problemi. E nel frattempo intanto sono già le 8:10, le 6:10 e nessuno entra. No, non sento nessuno, neanche dall'altra parte, ci sono anche le altre radio tutte accese. Sì, no, le basi che hai fatto sono da 90 e il ripiano è da 60, perché poi chiaramente sono microfoni, quindi vengono in avanti. Le basi sono da 90, una è da 2,30 m, quella cernierata, e l'altra è 1,80 m. Avevamo preso le misure, praticamente io posso, c'è il passaggio anche per passare dietro, staccare i cavi, è un bel lavoro, è un centro stanza, una L centro stanza, no? Che poi dovevamo fare l'altro pezzo, ma non avevamo più materiale. Capito? Perché il progetto era 1-1, no? Era 1-1, dove io stavo in mezzo, invece non avevamo più lo stesso materiale. L'unica cosa che era avanzata è quegli altri piani che mi hai fatto. Gli altri piani che hai fatto, gli unici erano quelli. Peccato che avevamo poco, se no era eccezionale, però già è un bel lavoro, veramente ottimo. E conta 7 anni mi già, 7 anni già che io sono qua al secondo piano, 7 anni, quindi ha voglia è durata, ha voglia, è dura ancora, perché il colore, come hai detto tu, sì, è vero che con la luce è diventato leggermente, perché era un po' rossiccio, è diventato un po' più scuro, però è ancora più bello. Beh, certo, sempre che tutti i vegni sverniciati e trasparente, si ossidano, per così dire, no? E dunque assumono colore, anche i vegni chiari, anche i vegni oscuri, quelli di cui sono neri, tipo ebano, tanto per fare un esempio, oppure il rocco, con il nome che ti dovevo dire, boccate della scala che ti ho detto, sono legni oscuri, anche quelli col tempo si ossidano nel senso che si prendono un colore loro naturale col tempo, per cui diventano per forza più oscuri, ma tutti i legni e tutti indistintamente sono così, dal legno meno costoso a quello più costoso. Tutti i legni, una volta verniciati, quando tu li piazzi, hanno un colore, dopo passa un po' il tempo e hanno un diverso colore. Infatti se dovessi prendere e piazzare di nuovo quel legno lì, noti che c'è una differenza enorme dal pezzo dove hai piazzato al pezzo dove invece non hai piazzato. Perché? Perché il legno tende a ossidarsi, si dice così, no? Si ossidano e si colorano per conto naturale della luce, eccetera. Così, tutti i legni sono così. No, ma allora adesso devi valutare la vita, non ti credere che ti rompe la mano dopo la mano. No, non si romperà mai, quello lì non si romperanno mai, assolutamente. Non si possono rompere, non è possibile, guarda, non è possibile. Prima di tutto perché non fanno un lavoro, non sono per niente sollecitati da niente. E tu mi dici il peso, è un peso, il bordato di biasi non sopportano, non ci sono problemi. Come diceva il problema, lui il falegname dicevamo, legno di punta, donna in piano, sostengono l'uomo di Milano, finché ti puoi immaginare, il legno regge, altro che è come regge. Poi c'è il legno buono, ti ricordi quell'armadio famoso, è sempre nuovo Ghiemi, sempre qua, io ho trovato proprio un amico mio che sta smaltellando mobili da portare in campagna l'altro giorno, ho visto le spalliere del letto, di un lettino, infatti mi ha detto, cosa devi fare con questo? Dice, boh, non lo ducca, dice Giaro mio, la giù in ballata ho messo a parte. Con la rete, la brandina, fatto bene, bellettino. È uguale al mobile quello che ho, quello famoso che ho io, no? Capite? Che sembra un rover lucido, boh, una cosa lucidante, ma dice mobile va, quell'armadio c'aveva 50 anni. Guarda, non credo, ma l'armadio dura anche 200 anni, che sia così, no? Sono mobili, ma quello è fatto dall'artigiano, e dunque il mobile è fatto dall'artigiano, quando l'artigiano lavora con coscienza, sono mobili indistruttibili, non li consumi, no? Se io guardo, io qui davanti, l'armadio, io sono in camera letto, sto guardando l'armadio, i mobili che ho fatto io qua, l'armadio mio è 3,10 m di larghezza, per 60 di profondità, perché l'armadio di cameretto vuole 60, se no ci stanno gli abiti appesi, perché vanno messi di taglio, di punta degli abiti. Poi è alto, 2,65 m, si può immaginare, da terra fino al solaio, c'è uno spazio di 5 cm arrivare al solaio e basta. E allora esempio questo qui è la carta in bianco, è la carta in bianco. Questa che ci sono, se spostarli su in alto e se in basso. Poi ci sono cinque cassetti della grandezza di Comò, di cassetti di Comò, in questo armadio, a me è di lungo. Ma è un armadio che questo, se uno dovesse farlo oggi come oggi, no, non ci vuole almeno di 6.000 euro per poter fare un armadio del genere. Innanzitutto perché gli sportivi, nonostante che sono da casa, li ho fatti tutti quanti in modo stipo. Tu mi dirai, ma le raccatti le hai fatte in Morano? Sì, le ho fatte in Morano Sipo, perché? Perché la raccattura nelle giunzioni tra traversa e montante degli sportivi non si deve restringere, soprattutto i mobili, se sono raccatti, se si restringe, dove sono una porcheria, vedi tutte queste filature, invece questa non c'è una filatura, nulla, quando tu passi la mano, non è sempre passando la mano sopra il vetro, perché sono lisci, la cattura era perfetta, poi io mi divertivo quando facevo le catture, se non era come dicevo io, non finivo, così, io dovevo fare come doveva essere, nonostante il locale che avevo, no? Per dire, tu, faccio tanto falegname, dicevo, ma tu quando nacchi, qua dentro nacchi, sì, qua dentro nacchi, faccio prima pulizia, pulisco tutto, pulisco, raccolgo tutta la serratura per terra, e soffio i muri, perché nei muri ci sono, c'è la polvere col compressore, attaccavo la pistola a un bastone e soffiavo tutti i muri, pulivo tutti i muri, dopo lasciavo passare e questo lo facciamo la sera prima di chiudere. Allora, alle 9 di mattina, tutti i muri con la polvere dei muri, la trovavo sul pavimento, prendevo la scopa, scoppavo e raccogliamo anche quella polvere che c'era rimasta. Allora cominciamo a verniciare. Ma usciva una meraviglia, senza nessuna impurità, niente, sai cosa vuol dire niente? Poi specialmente nel bianco, capita, è poco lo si vede se c'è qualche cosa, finta liscia. E poi usavo anche l'antingiallente, usavo io, sia nelle vernici bianche che nelle vernici colorate, in modo che il colore rimane sempre quello, non si altera. Se invece usi il catalizzatore, lo usi di quello normale, allora si altera il colore. O domani, se hai un graffio o una cosa, tu prendi lo sportello o un cassetto per dire, lo vernici di nuovo con quella vernice ed è perfetto. Mentre invece se non usi il catalizzatore anti-ingiallente, vai a verniciare e poi ti ritrovi con un colore diverso, ti ritrovi. Mi sono tirato qua. Perfettamente, ma infatti, siccome l'armadio della camera da letto era di miei suoceri, come la cucina, come l'armadio a muro dell'ingresso, è stato fatto tutto da falegnameria Ted, stesso procedimento, anche io ce l'ho raccatto bianco, fatto così con 6 ante, 6 sportelli, 5 cassetti, bianco così, perché poi ho letto in ferro nero, capito? E quindi risalta, fatto così, e conta 2 che ha durato nel 1987, ed è perfetto, non c'è una cerniera fuori posto, un incasso fuori posto perfetto, così la stessa cosa della cucina, la riconosci i TED, la stessa la cucina, uguale, fatta a misura, con ante altissime, c'è un sacco di spazio, molto, e mi pare che a Giugiambardo forse una o due cerniere. Mentre in quello a muro dell'ingresso che fa anche la scarpiera, libreria eccetera, io non ho mai toccato niente, sempre l'accatto bianco, uguale. Ed è tutto stato fatto dalla falegnameria Ted, la mia suocera, perché si servivano da loro i Ted, no? E quindi gli avevo fatto fare queste cose. E i mobili miei già li conosci. Tipo anche quello che hai verniciato quegli sportelli tu, quello 70 anni c'è lo stesso, un sacco di anni, e ha visto che condizioni è, nuovissimo, quello lo stesso l'aveva comprato da Coso, da Garau, da Garau. E vabbè, no, i mobili se sono buoni, io sono del parere che se sono buoni o fatti dal falegname, fatti con un certo criterio, o comprati in aziende buone, i mobili durano. Se tu si andi a comprare a Gonferrama o da Mondo Convenienza, penso che in 2 anni devi stare attento, se no te ne ingaggi tutti in alto. Infatti è proprio così, se compri quei mobili lì di Conforama, adesso diciamo che Conforama un pochino ha migliorato, perché io da poco sono andato lì anche per farmi un giro eccetera, e ho visto che i mobili rispetto a come era prima li hanno migliorati. Perché li hanno migliorati? Perché adesso c'è la concorrenza a Mondo Convenienza, no? Visto e considerato che ho visto anche quelli di Mondo Convenienza, per carità, per me che fanno qui schifo veramente, sono mobili brutto di quelli a 4 soldi davvero, però valgono poco anche, lo sappiamo. È meglio, cioè, il mobile è fatto da un artigiano, che è un'altra cosa, che un artigiano lavora bene, e se trovi una persona che ha coscienza lavorando, perché fa un lavoro come si deve, e il mobile dura una vita intera, no? E poi da mandare del padre e il figlio addirittura, perché non le rovini mai, non si consumano mai, si consumano solo quando ti stanchi, li voglio cambiare perché non li voglio più vedere, basta, per dire. E allora sì, ma non è possibile. E così il discorso che si sta facendo alla scala, se uso la scala, faccio il pino di Svezia per dire, e poi ci passo sopra, è chiaro che a un certo momento, anche se è fatta bene ed è verniciata anche bene, è chiaro che la marcatura del vedi, mentre invece se usi legno duro come ho usato io, che ho messo in occo, è un legno molto duro, tanto è vero, si usa anche per fare pavimentazione, si usa l'inocco eccetera, anche addirittura io ho anche le porte su nella zona notte, ho le porte in inocco addirittura, si può immaginare, sono tutti color noce, sono tutti quanti color noce con una punta di rosso, cioè perché c'è anche una punta di ciliegio, e sono bellissime, per dire, ma sono già anni che si può, a parte di quale dice, voglio 1500 euro la porta, oppure l'armadio, ma gli ho fatto un minimo 6.000 euro minimo, però nessuno te lo può fare. Tu vai con 6.000 euro da comprare, compri con 6.000, con molto meno, con la metà di 6.000 euro, 3.000 euro vai che compri, cucina, salotto, camera letto, camera per i bambini, e tutte queste cose qua, anche la parare di comprare con pochi soldi, per dire, no, ma è quello che hai, e si sa. Perché hanno prezzi così, no, e molte cose le ho lasciate mia suocera, cioè i lampadari del salone in vetro di Murano, mi sono cucciato una macchina di nato, infatti a mia moglie non piaccio, ci sono da togliere e mettere dei lampadari di vetro, basta a tagli si può piacere, no, gli ho quindi di nato, e quelli sono perfetti, perché le si lamenta per pulirli eccetera, e già te li pulisco io. Ogni tanto li smonto, piano piano li pulisco e poi li ripiazzo, capito? E dopo lampadari seri, no? Quelli veloci a passare il panno e via, no? Quelli sono, bisogna stare attenti, perché il vetro murano ti si può rompere, però tante cose belle c'erano allora. E una cosa del genere mi diceva mio moglie, il contatto, quell'armadio invecchierire mi pare ha costato intorno ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo, ma ti lo vedo dell'87, 88, quindi oggi per fare un armadio del genere come ci abbiamo noi ci vogliono 6-7 mila euro, ed è giusto così, perché c'è un sacco di lavoro e poi sai che il lavoro è fatto bene, non è che è fatto uscire la garrona, eh? Vabbè. Come mobile non mi posso lamentare, io poca roba ho sostituito, vabbè, ho ottenuto anche dei pezzi buoni come gli ingressi, hai visto le basi che c'ho negli ingressi, nel piccolo e nel grande, quelle sono tutte basi antiche e belle che sono costate una barca di soldi a mia suocera, quindi le ho ottenute, alcune cose le ho ottenute, ma anche i mobili miei, il salone è il mio, e io l'ho comprato da Ferroni ad Alghero e conta, la base non ho mai cambiato una cerniera, non ci ho mai fatto nulla, era un pochino più chiara, un pochino più chiara, adesso è diventata un pochino più scura, forse un rovere scuro, non lo so come si chiama, però è un bellissimo colore, capito? Sì, e beh, certo, già lo credo. Così il resto dei mobili lo stesso, ad esempio la cucina lo stesso, prima gli avevo fatto dei fusilli a mia ragazza e a mia moglie, e dopo sempre bianchi i fusilli della cucina, e il troppo sopra, il troppo grigio e l'avevo fatto. Dopo col tempo ho fatto, sai che questi sono belli questi fusilli, però dobbiamo pulire, sai, perché erano pannellati, no, sai, con la cornice e il pannello. E dice, per pulire dobbiamo utilizzare il pannello, perché nello spigolo il dito non riesce a entrarci bene. E allora, l'avevo utilizzato, ma ho capito, devo fare i fusilli nuovi, ho capito, così è. Beh, allora padre gli ha fatto i fusilli nuovi, e gli ha fatti lisci. Naturalmente tutti ben finiti, sempre in laccati, sempre, però questa volta gli ho fatto che fare i bianchi, li ho fatti con lo spanna, e la cucina gliel'ho fatta con lo ciliegio, si chiama la cucina bicolore, io ho una parte la struttura, per dire, con lo ciliegio e gli sportelli con lo spanna e così via. Nella cucina poi la tavernetta praticamente c'è anche una parete attrezzata dove c'è anche la televisione con due vetrinette in una parte e un'altra, tutte in un unico mobile, quello, e poi con dei cassetti e gli sportelli di parte, quella è una parete attrezzata, mentre invece avevo una parete fatta a L che è la parte invece tutta la cucina lì. I pensili di quelli al vetro su in alto alla ribalta, e cioè tiri dal fratello e si come il cofano della macchina, no? Si sollevano col cofano della macchina di pensili, mentre invece la base sono fratelli normali, ma ho 5 sono, allora te lo dico subito, 5 e saranno in tutto saranno 8 metri di cucina lineare tra una parete e l'altra all'incirca, intorno agli 8 metri, che si può immaginare, dopo c'è inserito tutto, no? Il forno, la lavatoviglie, il lavabo, la lavandina della cucina, tutto quanto, tutta questa cosa così, per cui, e quello devo fare la volta di sci di fottirvi, così almeno qui c'è fatto lo straccio umido, il lavabo subito mi viene, faccio molto freddo, e vabbè, e non è un attimo, sì, capito? No, anche la mia liscia, la cacca lo stesso, però è liscia. Liscia, no, non c'ho niente, ho lavorato solo quel mobile che avevi fatto con la base che avevi fatto il sportelletto, solo quello. Quelle sono tutte lisce, anche la cucina è liscia, lo stesso, la cacca bianca con le bordature rosse. Poi c'è lampadario di cucina anche rosso. E begli accorgimenti, dai, già va bene, qualche cosetta l'avevo fatta io, adesso te l'ho detto, non si riesce a bugiare i beri perché a venire a vederla vengono in tanti, però non mi si usa ciara e quindi sono un po' in difficoltà, non so cosa fare, sono andate torrenti, ma io vorrei finire questa cosa, vendere e andarne direttamente, invece sono un po' una batta, un po' dall'altra, vabbè, pazienza, no, la moglie sta già stufando, non veniamo più, tanto mi devo fare, su quest'estate mi faccio tutti i cassettoni, mi rivendico tutti i cassettoni, le finestre le avevo già fatte, comunque la vigilia mi aveva dato tu, interne e esterne, sono belle lucide, pulite, ordinate, le poste già le conosci, non c'è bisogno, sono nuove, maniglie non devo cambiare, non cambiare niente, pavimenti sono nuovi, case a posto, sono proprio fesserie che la ringhiera del poggiolo devo fare, la zoccolatura nuova del poggiolo, perché non sono un paio di cose che sono filate, le devo togliere e mettere, faccio la zoccolatura nuova del poggiolo, basta, altre cose non ci fanno nulla. Beh certo, col tempo si sa, l'usura c'è, sempre qualche piccola manutenzione bisogna farla, è normale, no? Sì, questo sì, queste cose così bisogna sempre riprendervi, è chiaro, soprattutto nel poggiolo, sai, essendo all'esterno e dunque mentre impegni le cose, è chiaro che si possono filare e rimanere scopa, eccetera. Sì, ma è così, ma la casa vuole tenuta bene. Adesso mi quando incomincia il tempo buono, diciamo, verso la primavera, piano piano, è stata la sera, sono qua, prendo la tinta, la pittura lavabile e incomincio una camera per volta e mi ritingo tutti quanti. Vabbè, da poco avevo fatto anche il salone, avevo fatto, per cui addirittura mi avevo portato il ponteggio, perché io mi avevo fatto un ponteggio che ce l'ho sempre, no? E anziché usare la scala mi avevo piazzato un ponteggio che è lungo 2 metri e qualcosa per 80, una cosa così. Ci ho messo due tavole sopra il ponteggio per fare il solaio, eccetera, anche i muri, e l'avevo tinteggiato così. Tanto poi l'ho smontato, me l'ho portato via, così anziché stare sulla scala, salendo e scendendo, col ponteggio ci sono le ruote sotto di roba, e dentro, quando hai fatto un pezzo, le puoi dire anche a tua moglie, tirare un po' avanti, se il banco deve fare al ponteggio per dire no, e continua a tingere. Ma no, adesso, a tempo buono, quando comincia la primavera, mi faccio la parte della zona notte, mi faccio una camera per volta e via. Per cui, se non te la fai la manutenzione, la casa si distrugge e poi diventa brutta, e poi non siamo anche di rivedere come te, ti chiedi a passare la grande proprio di Savani, no, che pingi l'uso, per carità. Una volta sono andato nella sua attività e sto passando al banco, cosa c'era? C'era un motore tutto a pezzi smontato, dove vendevano la roba da mangiare, già mai capito qualche cosa, adesso non faccio nomi e non specifico niente, per non far capire niente a nessuno. Ma per dirti, no, sul banco dove vendeva era tutto pieno di grasso, di pezzi di motorino, eccetera, una vergogna, uno schifo. Ce lo so, lascia aperto. No. Tu mi conosci una vita sia di presenza di tutto, quindi a casa mia un bingo non è benvenuto, capito? Io ho anche il cane a casa, ma non io un giorno sono entrato a casa di uno che c'ha il cane e gli ho detto che ci abbiamo molta conferenza, t'ascolto, tu vieni a casa mia, entri e mi dici se c'è il cane. Io qua prendo puzza del cane. Ma come lo fai? Tanto questa non devi tenere questa cuccia qua dentro, perché lui la bava, la fa e fa odore, quindi la cuccia pure era un bugiuro, pure a mettere in piedi. Il cane si porta dentro a casa, ma deve essere pulito, perché anche il cane c'ha puzza, è vero. Tu ti avvicini al mio, è sempre bello profumato, perché ogni 15 giorni faccio un contratto fisso da Monica e via Pascoli. Lindo. Ogni 15 giorni il cane è in pulizia totale, tutto totale, di tutto, capito? Unghie, tutto, orecchie, tutto, perché il cane sta dentro. E poi devi usare dei deodoranti per cani, di quella spruzzo, li sintonizzi, come c'ho io ne ho due, nel salone, ok? E allora li sintonizzi e automaticamente, se il cane dovesse fare qualche puzzetta, qualcosa, eccetera, il deodorante, che è un deodorante che assorbe proprio i odori del cane, non ti fa sentire assolutamente niente. Infatti l'ha fatto, sono andato un'altra volta, hai visto? Non si sente più la puzza del cane. Non funziona così, o chi c'ha i gatti, chi c'ha animali dentro casa. Deve essere una cosa ben fatta. E tutti i santi giorni aspirapolvere a vapore, perché io c'ho il folletto, quindi a vapore a 100 gradi, in tutta la casa, tutto bello ossigenato, e la mattina che stia piovendo, che ci sia freddo, non me ne affrutti nulla, tutto aperto, arieggiare, la casa deve arieggiare, mentre tu che stai dritto, fumendi, gurugani, gurigliatti, tutto già raddo, buonanotte, è meglio che stai dritto un gommolo. È vero, è proprio così. Infatti qui lo stesso, mia moglie fa anche tutto, tutte le mattine, qui noi il riscaldamento lo accendiamo la sera, lo accendiamo quando arrivo io verso l'una e mezzo là, la accendo come ho fatto anche oggi. Perché? Perché durante la mattinata è sempre con il vapore, non è freddo, lo so, c'è freddo, però le finestre bisogna tenere aperte perché è giusto che sia così. Ma hai ragione, che poi io tra l'altro ho anche le persiane di quelle con le palette orientabili, no? Per cui può essere abbassata la persiana, però c'è la porta che è aperta, perché? Perché le palette le giri e passa l'aria che vuoi, è come che tu hai la persiana aperta, spalancata, è uguale, non cambia niente. Per dire, è così, ma io infatti io la prendo per forza a casa, detto, tu sei malata, gli dico, fatto, però mi piace solo perché fai queste cose. Io ho detto, vista, cosa avresti preferito? Una donna sola a casa come moglie? Fatto, no, che non avrei preso, a casa di sedere, l'avrei accompagnata a casa della madre. Io gli ho detto. Si scherzava naturalmente, perché poi, anche se fosse stata una donna così trasandata, non mi sarei mai permesso di picchiare una donna, ma ve lo dico così scherzando. Se tu saresti stata una donna trasandata, io ti avrei accompagnato a casa, mi sarei fino a casa di tua madre. E la mia madre è morta, e vabbè, se da qualche parte ti avrei accompagnato. Io scherzo così con mia moglie, ma è in gamba una donna, adesso no, lì giù, dunque, magari la parte a lì queste cose non l'ho fatto, però devo dirti che è una gran bella donna, veramente, nel senso che è una donna molto riservata, non crea pettegolezze con nessuno, tu, la gente del vicinato tante volte, ma signora no, ma non la vedo mai in giro, sai, io a casa mia sono, se mi guardo le cose mie, non devo andare in giro a pettegolare, ecco solo quando mi devo fare le commissioni e basta, tutto lì. Per dire, no, mentre invece quando la zona c'è gente che è molto pettegola, preferirebbe vedere le persone in giro e pettegolare come certe che ce ne sono, certe, quasi tutte quando la zona, ce ne ha poco di gente già avvisosa, per carità, uno schifo di nome, per carità. A me a volte mi incazzo, a mio giro, in di la voce rimani, no? Capito? Sempre a casa, no? Non lascia nessuna parte, no? Parola poco, con noi a casa parliamo di tante cose, ma fuori, no? Buongiorno, buonasera con tutti, però non è di quelle che sta in giro a fare, anche la mia, grazie a Dio. Pulizia è tutto, no? Grande risparmiatrice soprattutto, non è di chi si specula denaro e butta via i soldi. Sa amministrare abbastanza bene, e ci voleva per me, perché quando ero ragazzo mi piaceva fare tante cose. Poi alla fine mi sono confermato lui, l'unico hobby è questo schifo del radio, ma gli ho fatto un taglio. Da un po' di anni a questa parte gli ho dato un taglio, perché tanto ne vale più la pena, l'unica spesa che ho fatto sono le antenne, però poi basta. Se no, la usaio ogni anno, no, ma ogni due anni una radio me la cambiavo, poi alla fine magari me lo vado e va. E mi sono accorto che è così, non c'è più il tanto per poter stare, cambia, basta quello che hai, ogni tanto rinnovi qualche cosetta, qualche cambio lo fai con qualche amico, capito? Ma no, niente di che, invece prima ci organizzavamo, andavamo alle fiere, a rampare di naifa, non vale più la pena. Non nel modo più assoluto, nel modo più assoluto. È un hobby che anche qua, con la scusa del computer e dei telefonini e delle altre fasi di comunicazione che ci sono, sta andando a morire, no? Non è più come prima. Lo so, purtroppo è così. Sì, diciamo che la vita è molto cambiata, da un po' di anni a questa parte. Sì, ma è così. Ciao, vai e tu presentagli della cosa già pronta, tipo ad esempio in macelleria a volte ci sono, nei gusti, no? Ci sono, per dire, non so, una bistecca già con un po' di aglio o un po' di cose così che mettono in macelleria stesso, no? Oppure prendi gli hamburger, prova a capire, è capace di dare la roba con me. Non le vuole vedere, no, assolutamente, tu a me mi porti la carne e li faccio io, perché pure le spezie ce le metto io, perché quelli non li lavano. Ma cosa non li lavano? Io dico, ma cosa non li lavano? Ma che stanno, sai? No, non me ne portare con la cosa, perché io non la butto, non me ne portare, perché faccio tutto io, non le voglio vedere, assolutamente, sono io quello che devo mettere la verdura prima di metterla, la tutta l'altra, a me come è giusto che sia, e loro guarda, non so se lo lavano, se lo mettono direttamente e raccolta e messa in mezzo alla carne, no, assolutamente no, inizia, e la raccolta la ratina, e se gli porta una cosa del genere, oh, tu dici a me nipoti, intanto mi porti quello che ti chiedo io, non mi portare altre cose a tua iniziativa, perché non lo so se sono d'accordo. Alle volte io compro qualche cosa in più, ma questo che sarebbe, non tu, io allora cosa faccio per difendermi? Tu non hai buio, non mangiare, cucinare per me. E invece no, poi già si adatta, non è quello il problema, per dire no. È troppo schizzinosa, è una cosa incredibile. Tu la vedi, puoi dire, faccio fagioli, tanto per fare un esempio, o pasti ceci, te li controlla, uno a uno te li controlla, ragazzi, l'anima, ragazzi, ma proprio, è una cosa impressionante, guarda, ti porti la verdura, foglia per foglia te la toglie, e te la lava, no, non è possibile, è meglio che sia così, sia ben chiaro. Però è esagerata, io devo dire che è troppo esagerata per conto mio, con la maniera della polizia in una maniera impressionante, guarda. Ecco, io invece, se vi chiami da un bingo, è lo stesso mia moglie, mi ha detto la verdura la fa con la mucchina, lui che la ciucca cucisce tra la bambino, i ceci lo stesso, quando li mette a bagno, li controlla, li fa, le fave, l'altro giorno abbiamo fatto le fave a Rebisale che ne avevo voglia, e devono essere di buona cottura, devono essere buona, devono essere così, devono essere colà, tutti i giovareggi, tutti i vasi, la verdura, io prima, dove vado al fruttivendolo, che abbiamo anche un buonissimo rapporto, per fare il minestrone, la verdura lei la sceglieva tutta e poi lui gliela tagliava tutta, gliela preparava tutta a pezzi e la metteva nel sacchettino, già pronta a cucinare. E una di un sacchettino ha avuto un pelo di capelli, ho detto può succedere, ho detto dai, no, non gliene faccio preparare più, e non ne ho fatto preparare più, no? Allora compravo la verdura, così a tagliare tutta a me a pezzi, no? Fermo un attimino, io mi sono stufato di fare questa cosa. Mi ha sentito mia figlia, ha comprato il bimbi, che è una cosa eccezionale, ha pagato 1200 euro mi sembra, o 1180 euro, una cosa eccezionale, tu hai un computer, lo imposti, il sedano tu lo tagli in due e lui te lo fa tutto a pezzettini per il minestrone, le carote, tu lo fa già tutto pronto, tu non fai altro che prenderlo e metterlo nella pentola. Poi cucina tutta la roba a vapore, la stessa cosa, le polpette, gli hamburger, no, non li vuole uno di chi si confezionati. Tu le porti, gli hamburger vuoi, li faccio io, c'ha la forma, le condisce tutte le cose e poi fai gli hamburger rotondi, le polpette, le cose. Non le vuole di roba così, come la tua, uguale, preciso identico. È una cosa allucinante, molto schizzosa, anche perché mia figlia poi carne non ne mangia molto, soprattutto la carne rossa, piace più la carne bianca. E quindi, ripeto, però ad esempio lo prendo intero, io no, lo faccio tutto a spezzatino, con i peperoni, con i funghi, con tipo a scaloppine però a spezzatino, tutte queste cose così, ci sono già pronte, dico a volte, mica ce l'ho già pronte, no, il pollo lo voglio intero, me lo taglio io, non li vuoi coscette, ali, cabi, non vuoi nulla, entri io e ci vuoi parare. Sì, sì, sì, è così, sto dicendo, io infatti mi racconto io tante volte che penso, ma tutte le altre donne così sono, senso. Io tante volte dico, ma comunque, fatto, visto che lei è così signora e la contento, e non ci sono problemi. Però io sinceramente le polpette le avrei comprate, gli affatti, le hamburger le avrei comprate, ma no, manca pensarvi. Mi porti la carne, qua ci penso io, ma nemmeno per idea, è così per tutte le altre cose, no, assolutamente, no, non devo sapere di queste cose, te lo sto dicendo, ragazzi, allora, guarda, questa settimana ha fatto i pasti ceci, ha fatto, no? E te la vedo prendendo i ceci a uno a uno, ma guarda, giocando là, guarda, sta controllando i ceci, e perché, perché, cosa c'è da vedere? No, i ceci si controllano, cosa ne so io quello che c'è in mezzo, non posso prendere e mettere una pentola così, no, tu te le lavo prima, e la moglie del bocco della barica, ma dopo che la controllate a uno a uno, proprio uno a uno, è una cosa, sto dicendo che è un, io, per conto mio, è una specie di malattia, però sono contentissimo che faccia così, perché è giusto che sia così, perché mi rendo conto che è così, che deve essere così, per dire, poi ci passa più sopra, dai. È l'uomo diverso, no? Anche se io l'ho mandato se non posso la luce a luce da casa per dire, no? Ma queste sono altre discorsi. E lei è così, lei è così lo stesso. E è tanto quello che mi ha dato la rubinetta. Prende sopra una cosa e subito sotto la rubinetta. Prende un'altra cosa, quando sta cucinando lo stesso, e subito dà la mano sotto la rubinetta, e così via. È una cosa impressionante. La frutta, prima la lava sotto il vetro, poi prende l'acqua minerale, quella che usiamo per cucinare, e la risciacqua con l'acqua minerale. Basta, sto dicendo una cosa impressionante. Ma l'arancia lo si bruciano, c'è bisogno. E beh, prima di bruciare, perché? Quando io li tocco con le mani, poi quando tocco la buccia, tocco con le mani che ho toccato la buccia, che magari poteva essere poca, tocco la parte buona. No. Tutte le robe meme, anche se li sbucci eccetera, no, non ne frega niente, lei lava tutto indistintamente. Quella è una cosa buona, perché hanno fatto vedere anche un programma da poco lì a Ghio, dove appunto la verdura va lavata in una certa maniera, no? E tu la buona sottoleva e la scuzzoleggi, no, fa pulita bene con le mani, foglia per foglia, fatta asciugare con un panno, perché dice che ci possono essere dei batteri appunto dell'aria, del terreno stesso, e possono essere anche nocivi. E così la frutta, la stessa cosa, fa bene, perché anche mia moglie fa la stessa cosa. L'arancio prima di sbucciarlo lo lava, la mela prima di sbucciarla la lava, la bella non mattesci, capito? La banana, tu prendi la banana, ma la devi pulire, perché quando la sbucci o non la tocchi e la mangi, ma molti la sbucciano del tutto e poi la abbigliano con la mano, no? Allora così la devi lavare, se invece la apri, la mantieni dalla buccia piano piano, come si dovrebbe fare, allora un'altra cosa, capito? Tranne l'anguria, vabbè, tu la dagli, il melone, queste cose così, ma la mela, la pera, la pesca, soprattutto quelle pesche noci che le mangi con la buccia, no? Ma anche quelle che poi sbucci, quelle vanno tutte lavate prima di prenderle, perché poi chiaramente vai a toccarle con le mani e i batteri ce li hai sempre, E se io ho la mucchina in gel e la mucchina liquida, la mucchina in gel la uso per quando mi lavo le mani, poi mi passo la mucchina in gel profumata, che è un disinfettante, anche perché io sono a contatto col cane, quindi quando le pulisco il muso, quando le passo passo la spazzola, insomma, quando sto a contatto col cane, poi me lavo le mani col sapone, ma poi mi passo la mucchina in gel, perché è un disinfettante. E non ci bisogna fare. Ma non tutti c'ho gli scirivelli, don Giulio. E venne pinghinosi. Che ci con la gimmacca e luci non si lava neanche la faccia. Sì, e beh certo, ce ne sono tantissimi, per carità. Noi, no. Io proprio ieri mattina lì sento un boccano e non c'era un. Non era questo nemmeno un barbone. Sento questo odore. Infatti gli ho detto, ma cos'è questo odore? E cos'era? C'era una persona che ha lasciato la scia qua, calendario qua. Mamma mia, che odoraccio, guarda, una cosa. Anni, non mesi, non sei stato, quando era grande sei stato qua. Eppure tu lo vedevi così, non sembrava una persona tipo barbone. Poi mi ha detto, il barista mi ha detto, no, è uno, ogni tanto viene, purtroppo non lo posso mandare via perché l'esercizio qui è aperto e sono obbligato a servirlo. Sì, è vero, questo è vero. Però non si poteva stare, guarda. Distante da lui anche, ma sentivo questo odore, poi se n'è andato l'odore sparito e eccetera eccetera. Dopo dire, ma ce ne sono tante di queste persone, questo strozzone, e dunque no, lui, mamma mia, da per carità, è così, non è come per dire, ad esempio, ma cosa che fa mia moglie, mi ricorda che le carte te le ho separate, ti ho messo le carte quelle lunghe, da una parte le carte quelle contro l'altra, così la mattina non stai 2 ore cercando quando si deve cambiare le carte, quando devi prendere le carte, per dire, no? Tanto per dire, le magliette con le maniche lunghe sono da questa parte, queste con le maniche corte, le magliette di sotto, no? Sono dall'altra parte, è così lo stesso per un tante che se sempre guarda qui da questa parte ci sono i pantaloni del pigiama, da questa parte invece c'è così, a me non lo sai, e non mi rivoltare il cassetto, quando lo prendi con attenzione, con garbo, dice, in modo che non mette tanta sopra, ma ti sei dato disegni e poi mamma mia, gli ho fatto. Ma cosa deve fare se poi prendo una maglietta in fretta e un'altra l'ho spostata? Cosa fare? No. Tu la prendi come si deve, a uno, perché poi tocca a me, dice, a sistemare. Così, e mi fate così, e qua, e cosa volete dire? E il suo carattere è quello. E sono contentissimo che sia così comunque. E tu sei contento? Io avevo un garage, invece trovare le carte trovi le magliette o viceversa, no, adesso è tutto ordinato, ma quelli che stanno a casa, perché mia moglie prima lavorava, poi vabbè, però ci organizzavamo e non abbiamo mai avuto problemi, ma poi che non ho lavorato più si è dedicata molto di più alla casa, capito? Ma l'altro giorno ad esempio con l'aspirapolvere mi ha fatto aspirare tutti i gassettoni sopra, tutti i mobili sopra in alto, tutte le cose che lei non può fare, gliele faccio io. Se devo pulire ad esempio l'ampadario qua della cameretta mia, della sala radio, me lo pulisco io, quello del cucinale lo pulisco io, quello del salone lo pulisco io, se l'ampadario lo pulisco io, chi sarà piccato, un cassino gotto, ci sono io a casa, che le faccio io le cose. Però tutto il resto, tutto l'altro giorno ho battuto le porte con il prodotto per il legno, una nonna che a casa deve essere pulita, le piace la pulizia. Se a voi fai come ti dico, Dio li ha fatti e Dio li ha accoppiati, come ti giudici, allora buonanotte. Che pace, è così, è vero. Se la vuoi accompagnare con qualcosa di buono, di dolce, in qualche posto, e ti c'è più un bottolino, non te lo manco di vescica. Ma che dai, ui. E così è mia figlia, è la stessa cosa. E anche lei è così a quei livelli. Infatti loro, quando io, perché io alle volte dico, ma non lo dico per fottere, più che altro, per scherzare. E la figlia fa, oh, ma è un uomo senza fare, è un uomo. E hai ragione, la madre risponde, hai ragione. Io però lo faccio a fuori. Mica sto scherzando, le dico, intanto però, sta scherzando. le porte del sportello dell'armadio col pennello, tutto quanto. Non è che passa solo lo straccio, nell'angolo si sa, lo straccio non ci può arrivare a pulire tutto perfettamente. E tu lo vedi col pennello, va, beniciando stai, io le dico, beniciando stai. Beniciando sto, e allora, lo sto beniciando, con l'acqua che ti lascia la polvere. Dai che te lo faccio io. E così mi dici, però non lo fai mai. Io alla volte ho preso il cappotto, no? Devo dire che poi ha anche un carattere abbastanza tranquillo, no? ossia che bisticciamo mai, allora non dire mai. E io sono sposato 47 anni, 48 anni faccio quest'anno, mi sono sposato, non ho mai bisticciato. A differenza di tante coppie, soprattutto i giovaniugi, che da voi si sposano, dopo 10 giorni sono già separati. Come cambiate la vita, qua è calendario, lui. Pensavo che avevi già fatto le nozze d'oro, no, io 40. 40 dicembre ne ho fatto, 40 dicembre del 2018, 29 dicembre, sì, ho fatto 40 anni di matrimonio, poi vabbè, avevamo 5-6 anni, infatti. 40 anni di matrimonio. Caspita, il tempo passa, caro Giulio, mi sono trovato giovane, ragazzino. Non vi ho detto che già dovevo stare a aspettare. C'ho messo la canna, rigaggia, dove sono adesso? C'erano i mobili, tutto, quadri, le tende, poi, figurati, i suoceri tedeschi già stavano lì, poi gente che stava bene anche. Quindi, però, noi abbiamo messo sempre tutto assieme con mia moglie, sempre. Da ragazzini, quando abbiamo comprato qua, la cooperativa, siamo iscritti in cooperativa con 5 milioni allora, e siamo arrivati quando siamo andati a casa 59 milioni. No, ne vale 160. Sacrifici devi fare da piccolo, sennò te la bigli in gomma da vostra mano, capite, come dice qualcuno, perché i sacrifici si fanno da piccolo. Infatti i risultati miei non sono balle, ho iniziato a 17 anni a lavorare e grazie a Dio a 60 anni gioco io, bello che ho fatto, bello che ho incorniciato, bello che è dipendente dello Stato, vero? Già lo credo, quando ho iniziato da giovane a lavorare, avevo 10 anni e mezzo io quando ho cominciato a lavorare, se puoi immaginare, andavo a scuola, andavo, poi andavo al lavoro e poi di nuovo a casa. Poi quando ho cominciato a praticare lo sport, facevo da casa a scuola, da scuola, cioè da casa a scuola, da scuola a lavoro, da lavoro a palestra, se puoi immaginare. Il mio giro da quello, infatti io devo essere sincero, a casa mia noi siamo stati 7 fratelli, e mia madre ha avuto 7 fratelli, anzi ne ha avuto 8, addirittura 7 figli, ne ha avuto 8, la prima è morta, è la piccolina, che è la più grande di me, che io tra l'altro non l'ho nemmeno conosciuto, per dire, no? Ma devo dire che fra tutti i fratelli, siamo 4 maschi e 3 femmine di fratelli, no? Ma non ce n'è uno che ha la minima macchia, nella maniera più assoluta. E tutti quanti abbiamo tutti la casa nostra, tutti quanti arredati, tutti abbiamo lavorato, non abbiamo subito mai la minima contravvenzione, per dire, di niente. Di proprio, tutti uno meglio dell'altro, tutti tranquilli, fratelli. E diciamo che la gente che ci conosce ci apprezza anche, devo dire. Ma per dirti, no, e così siamo vissuti, vabbè, ormai siamo tutti grandi, perché il mio fratello più giovane va 60 anni, non è che va due righe qua, 50, dunque io ne ho 77, subito la prima, 77 meno 18, faccio il conto, tanti anni fa, 59 anni, così, sì, 59 anni, ecco. Nello, mio fratello ha 59 anni, è il più piccolo di casa. Per dirti, io sono il più grande e lui è il più piccolo. Ma siamo tutti quanti, tutti abbiamo la casa nostra, tutti costruiti, senza debiti, senza niente, tutti tranquilli, senza... Non si andava a Bobosso di Mocagavadino e cavolo, babbo, capita, è già se lo diceva sempre, babbo, non si stancava mai di dircelo, come ci dovevamo abbiamo lavorato, tutti abbiamo studiato, per dire, io sono diplomato giovane, però non ho potuto fare mai il corso, l'esame di Stato, perché purtroppo mio padre poi era diventato invalido e a casa c'erano bisogno di soldi, allora ho dovuto incominciare a lavorare io. Tant'è vero, prendevo anche gli assegni familiari, per i miei fratelli, prendevo per dire no. E purtroppo la vita è stata quella e allora ho dovuto rinunciare a fare il geometra, però io sarei dovuto essere geometra, sarei dovuto, però non ho fatto mai l'esame di Stato, proprio per quel motivo lì, perché ho dovuto cominciare a lavorare. Non mi sento di niente, la verità, una piccola posizione, ma la sono fatta, quello che avevo deciso di fare, sono riuscito ad ottenerlo e basta, è una soddisfazione più grande quella di aver fatto laureare mia figlia e lei ormai praticamente è autonoma, eccetera, eccetera. Lavora, è una professionista, tranquillamente, e non ci sono problemi. Hai capito qua? Diciamo che sono soddisfatto, dai. Sì, si può fare di più nella vita, però a livello di operai posso essere veramente soddisfatto. La stessa cosa ti dico, io non ho da incriminare niente, io studiavo e lavoravo, quindi non ho mai avuto nessun problema, assolutamente. Poi sono fatto militare, sono rientrato, il posto di lavoro me lo sono mantenuto e me lo sono portato avanti, fino alla fine, perché è così. Mia figlia è la stessa cosa, si è diplomata, si è iscritta all'università, ha frequentato per un certo periodo, poi mi sono accorto che stava praticamente soffrendo troppo, quindi me la sono presa da parte, ho detto ascolta, non puoi fare tutto e di più solo perché vuoi arrivare in alto, dici di cosa vuoi fare, quella è la tua professione, c'hai il tuo diploma per quella professione, allora beh retta a me, c'hai il tuo lavoro, grazie a Dio, anzi ce ne sono pochi che a 18 anni finita la scuola sono già al lavoro come ha fatto lei, perché lei c'è già 12 anni assicurata, quindi perciò segui quella linea, fai quello, e così ha fatto, e grazie a Dio sta lavorando tranquilla, serena, non rimanca nulla, adesso penso che quest'anno definitivamente si metta proprio, perché ancora anche lei va e viene, però penso che quest'anno abbiamo deciso finalmente di stare fissi nella sua casa, e quindi insomma, sono contento, ma Giuna, tranquillo, ma tutti i miei fratelli e mie sorelle, e io anch'io sono più piccolo, io ne ho 59, 60 non li ho fatti ancora, mio fratello ne ha 60, la più grande ne ha 70-71, quindi perciò sono tutti sistemati, belli, a posto, senza nessun problema, non c'è neanche uno che non ha la sua casa, quindi anche mamma, perché babbo aveva bugia, autoricambiatore, era dipendente di babbo, quindi però babbo è morto molto giovane, un'operazione è andata male, un calcolo a cistifelle, era diabetico, non si sono accorti, è morto di emorragia interna, ma io vi ho 3 mesi che non è morto babbo, se no l'attività del babbo sarebbe andata avanti alla grande, però mamma si era imboccata le maniche, aveva venduto l'attività proprio a Torre Bugia, e lei era entrata a vedere l'Annautico da giovane, e quindi ci ha fatto grandi così, e abbiamo sempre dato una mano, e grazie a Dio non è mancato nulla, ti posso dire che non ho niente da che lamentarti, sia lei che attualmente sta bene perché c'è ancora proprietà, e sia noi che siamo tutti sistemati, però ti ripeto, sacrificio li fai da piccolo perché da grande non li puoi fare, a me che bacione che casini attaccati al guru della mamma di babbo non mi piace assolutamente, perché stai solo sfruttando il lavoro dei tuoi familiari, ti devi rimboccare le maniche e metterci la faccia per andare a lavorare. beh certo, ma è così, in effetti è così che deve essere, cioè, le persone educate in una certa maniera è chiaro che poi si comportano bene con la famiglia e anche fuori di casa, per cui si sacrificano perché si devono sacrificare, perché in realtà il lavoro è sacrificio, però uno lo deve fare volentieri, no, a casa lo stesso, tutti quanti hanno lavorato, tutti quanti hanno pure le donne, le donne non ce n'era bisogno, però una già ha lavorato, una, no, due hanno lavorato, non una, ma hanno lavorato proprio perché? Perché non sapevano proprio come restare, dice ma voi lavorate io no, perché una mia sorella, la grande, aveva la panetteria e ha lavorato per tantissimi anni in panetteria e vendeva pane, biscotti, dolciumi e tutte queste belle cose qua. L'altra lo stesso, lavorava anche lei in un negozio di frutta e verdura che aveva mamma, aveva un negozio di frutta e verdura e ci lavorava quest'altra mia sorella, mentre invece la più piccola delle sorelle, quella era a casa e dunque era quella che praticamente portava avanti a casa le pulizie eccetera insieme a mamma, perché anche mamma, nonostante che poi era anziana, ce l'aveva sempre da fare. Tu vedi che adesso mia madre è morta, che avevo quasi 95 anni, ci volevano pochi giorni a compiere 95 anni e volevano vivere da sola. Lui diceva ma veniamo a farci compagnia, lui no, assolutamente, voi siete tutti sposati e avete diritto a stare con la vostra famiglia. Quando io ho bisogno di qualche cosa ho il telefonino, mi telefono e poi venite, e così è stato infatti. E devo dire, nonostante che aveva 95 anni, dovevo vedere la casa di mamma, lo specchio, sai cosa vuol dire lo specchio? Una cosa impressionante, il vigore di questa donna. Tutte le mattine descendeva nel negozio sotto casa, si faceva la sua spesuccia, si faceva e si faceva due piani a piedi, perché abitava al secondo piano, abitava mamma. Per dirti, no, l'unica cosa che poi voleva negli ultimi due o tre anni, ci andava mio fratello e gli comprava l'acqua minerale, perché quella dice per me è pesante, no? L'altro già te la porto io, sono il mio fratello, se te la porto io, non ci sono problemi. E andava, nonostante che andava, gli portava l'acqua minerale, non sai che gli facciamo ogni tanto, gli facciamo qualche regaluccio, se te dice che tu mi fai un favore a me, ma che cosa stai dicendo? Ma io sono tuo figlio, tu sei mia madre, che favore mi dicevo? Io il favore ce lo faccio volentieri, non devo essere pagato. Non ti preoccupare, dice. Ecco, questi vai e mangiate una pizza con tua moglie, per dire, no, mi diceva. E poi ogni tanto, ogni pochi mesi, ci chiamava e ce ne regalava anche gli insulti, a tutti quanti. Prima faceva la somma totale, per dire, non so, raggiungeva, ad esempio, di solito raggiungeva sempre 3.500 euro, raggiungeva, no? Messi da parte, quelli che lui che metteva da parte un po' per volta. Ci chiamava e ci dava 500 euro a testa, a tutti quanti. Non facciamo parzialità, no, assolutamente. E poi quando è morta c'era tutto pagato, il funerale, tutto pagato era, no? Anzi, ci sono avanzati anche i soldi, ci abbiamo diviso anche i soldi che sono avanzati, per dire qua. Ma era così, era una nonna proprio di non si scherzava, però al suo tempo non la buttie, no, assolutamente. No, ma è così lo stesso. Nipoti ogni anno, no, noi no, noi prima sì, poi abbiamo detto no, noi non ne abbiamo bisogno, grazie a Dio, quindi se devi fare qualcosa farlo con i nipoti. E anche quest'anno ho chiamato tutti i nipoti, ho preparato le buste, 250 euro a testa, 250 euro a testa, infatti mia figlia, nonna quest'anno 250 euro, conservati, rivattene fuori, vai, no, dice, mi lascio a casa, non mi servono a me, adesso li ha fatti lasciati a casa, per dire, cioè, ma sono così, mamma c'ha 86 mi pare, 86 anni, 87 no, non li ha fatti, li fa quest'anno, 87 li fa quest'anno, quindi 86, ed è Lesciana, l'unica cosa che non è regine sono l'Anchi, infatti c'è il Baccolino, giusto per appoggiarsi, però è abbastanza attiva, chiaro che c'ha la donna, ogni due giorni mi pare, un giorno sì, un giorno no, c'ha una donna fissa, le fa le pulizie, le fa le cose, le pulizie grosse, se no cucinare, cucina lei, fa lei, però a stirare, a pulire le tende, cioè, togliere le tende, le cose, però quelle cose lì, le pulizie grosse, c'ha una donna, già da tanti anni, però per il resto è abbastanza attiva, non sta guidando più, perché prima guidava, fino a pochi anni fa guidava, adesso non guida più, però sono quelle donne attive che hanno sacrificato, hanno dato, quindi una devia lo massimo, però ti ripeto, no, nessuna donna ha mai lavorato, grazie a Dio, assolutamente, solo io e mio fratello è provato avanti, poi è entrato all'ASI, e quindi lì a Corte Santa Maria in ufficio, prima era a Porto Torres, mi sono trasferito gli ultimi anni, ma penso che ci abbia quest'anno solo, poi anche lui va in pensione, e all'ASI. E gli altri tre sorelle, grazie a Dio, una abita a Porto Torres, gli altri due sono ad Alghero. Quella Porto Torres è la moglie del comandante di Vigili Urbani di Porto Torres, che adesso è andata in pensione, mi pare un paio di anni fa. L'altra, gli altri due, i mariti Nani di là, a Puglia di Nani, sono tutti e due, uno è andato in pensione qui e l'altro in pensione due anni fa, l'altro mi pare che vada in pensione quest'anno o il prossimo anno, ma sono tutti e due dipendenti ENI, capito? Uno è con la Saipem, l'altro è, mi pare, con la Gran Progetti, dove ci ho lavorato anch'io a Cagliari, a San Rocco, mi aveva appunto portato lui, sono tutti e due supervisori, anzi come le Romesi, cosa, non ho ne bisogno di farmi travagliare. Grazie a Dio, per dire, no, non si sta male quando si vuole, ti inserisci in un ambiente sano, ma quando tu vai già a inserirti in un ambiente malato, allora, caro mio, come ti dice mamma, canta con lo zoppo, impara a zoppicare, o ti bidi un vacurino o che giacca a terra, lui dice rigosimi, e tu non riesci più a alzarti, queste sono le parole che ci diceva sempre mamma, infatti io, la mia linea era quella, mai avuto problemi di nessun genere, di droghe, di alcolismo, di amicizie sbagliate, di nulla, perché se poi entri in quell'ambiente non te ne becci più. Infatti è così. Scusa un attimo, che entro un attimo nel bagno. Scappa. Sono tornato qua. Eia, sono qua. Guarda, per un pochino e poi ci organizziamo. Mio cognato ha detto, ti chiamo dopo per portarti la macchina, ma mi chiamo all'otto quando si qui al pigiama allora. Ok. Ma si è telefonato anche mio fratello. Uscendo dal bagno e ricevendo la telefonata. Si già prendevo, ma mi ha solo abbissata a volte. Fatto, stavolta, con questo freddo vuoi uscire? Fatto, e allora, facciamoci magari domani notte. Domani, che è sabato, e forse hai ragione, forse è meglio domani. Vabbè, dai, adesso, lo dico, diciamo, mia moglie, va detto, e poi casomai telefona che hai detto fratello e andiamo tutti insieme. E vabbè, facciamo così. Sempre che non piovia, che se piove non pesce, l'ha già detto. E beh, no, ne manco io, mi ha detto, nemmeno io, no, se piove no, ma se possiamo andiamo lì, dice, alla piazzetta sua, cosa nostra, non mi ricordo come si chiama quella pizzeria. Dove andiamo quasi sempre, dai. Al Burgavero. Esatto, sì, proprio lì, sì. Andiamo quasi sempre lì, andiamo lui. Ma di solito siamo andati di sabato, sì, è capitato che siamo andati anche di giovedì, ma è meglio di sabato, anche se il sabato c'è tanta con la gente che infatti devi aspettare un pochino per servirti, perché c'è moltissima gente il sabato. Ma infatti di sabato stesso, che a volte mia figlia mi dice di andare. Allora, domani abbiamo 11 gradi, 3 di minima, stanotte meno 2, 7 gradi, meno 2 gradi stanotte, meno 2 gradi stanotte, quindi preparati. Mentre invece domani abbiamo 11 gradi, 3 gradi la minima, nuvoloso, però pioggia non è adatta, mentre domenica e lunedì c'è pioggia, quindi, va cari dai. Infatti, ma se il tempo è troppo brutto non conviene uscire. Infatti le stavo dicendo, al limite possiamo fare così, io adesso, anziché se per caso tutto il tempo è proprio brutto e vogliamo stare insieme, venite a casa, tutti quanti a casa, compriamo una famiglia qui vicino a casa, e almeno esce solo una persona, va a comprare la paella e ce la mangiamo a casa, oppure la pizza la possiamo mangiare anche qui vicino a casa, ma così tu amore, se veniamo noi sicuramente sei tu per andare a comprare la paella. Allora cosa significa? Non vuoi uscire, ma non vuoi uscire, e vuoi più di terra, che cosa, ma detto mio fratello. E vabbè, quello è quello l'altro discorso, ma anzi che uscire tutti, ma soprattutto per le donne, sai, per le donne e ragazzi soprattutto, perché loro hanno anche i figli, eccetera, anche se sono tutti quanti grandi, però non va bene, dai. Se non freddo è meglio fattene in casa. No, ma infatti. Adesso stavo scorrendo qua il telefonino, ma domani c'è l'ottavo finale di Coppa Italia, Bologna-Juventus. Coppa Italia domani 20:45. Sì, è vero. E poi il giorno 16 c'è la Supercoppa contro il Milan a Dubai. Sì, è così. Cosa volevo dire? È il Marzo che c'è il fortunato, peccato. È molto in forma quel giocatore, speriamo che si riprenda almeno per la Supercoppa, speriamo bene, si è infortunato ma e speriamo che riesca a prendere subito questo Ramsey, quell'inglese, che è un buon mediano, è veramente in gamba quel giocatore, però l'Arsenal non può mollare, vuole 20 milioni, ma 20 milioni la Juve non deve mollare, perché qua c'è a parametro zero, fra 6 mesi, capito? Cioè a giugno è a parametro zero, infatti sei già d'accordo con la Juve, 6 milioni e mezzo all'anno verrà per 5 anni, ti puoi immaginare, però sei. Sei centrocampista, ma dice che c'è qualche altro acquisto, immagino che c'è un brutto colpo. Speriamo che rientri per la Supercoppa, perché poi inizia il campionato, quindi insomma, perché Mandzukic è l'obiettivo principale dell'attacco della Juve, è un grandissimo guerriero. E a posto di Mandzukic chi gioca? Dybala, Ronaldo, chi gioca? Carlos Costa, chi gioca? Bernardeschi. Quelli ci sono, no, ce ne sono altri. Bernardeschi, Douglas Costa, può giocare, sicuramente in quel caso lì, allora cosa fa? Sicuramente a sinistra sempre Ronaldo, vabbè, al centro giocherà Dybala, giocherà, e la posizione di Dybala la prenderà o Bernardeschi o Douglas Costa. Sicuramente fanno così, l'attacco sarà quello, senz'altro. Ho sentito che domani è intenzionato a far giocare a Spinazzola, è intenzionato a far giocare, e a Ken, quello del negretto che ha, che è bravo, però ancora è giovane, non lo so, vediamo. Però anche quello bisogna farli giocare, è ovvio. Spinazzola finalmente si è rimesso dall'incidente che aveva avuto, perché era stato operato al ginocchio. Speriamo che sia in grande forma adesso. Sembra che sia arrivato il suo turno e gioca proprio contro Bologna. E Cancelo che fine ha fatto? Ancora non si è ripreso. Cancelo è fortunato, ancora non si è ripreso. Però sta anche lui lottando, che vuole anche lui giocare nella Coppa, nella Supercoppa. Speriamo bene, credo di sì. E Cancelo è un gran giocatore, molto, molto, molto un gambo. È diventato uno dei giocatori, uno dei difensori più forti del mondo, è diventato. Per cui va bene così. E speriamo bene che al prossimo anno magari venga anche Isco con la Juve, perché Isco le Real Madrid che lotta con la Real Madrid e non lo. E a quanto sembra la Juventus ce l'ha tra le mani. È quello che si riesce a comprarlo. Isco è un gran giocatore. Cos'è? Mediano, cos'è? A certo campo gioca sempre fa quella emozione lì. Certo, è un gran giocatore veramente. Diciamo che ancora il centrocampo della Juve è forte, però non ha tutto quella fama, diciamo così, di livello mondiale. Ci sono altre squadre che hanno il centrocampo più forte, anche se noi ce l'abbiamo, un Pjanic che è straordinario, ma poi abbiamo anche Erling Haaland, che anche lui si è ripreso dall'infortunio, c'è Kedira anche, però adesso vediamo, non lo so, forse Kedira quest'anno va via dalla Juve, non lo so, staremo a vedere, ma se lo rimpiazza con Isco, è perché sono come io volevo il 4. A sinistra Cancelo, a destra Marcelo e in avanti tre guerrieri. Quella è la squadra che volevo io, però nonostante Ronaldo stia picchiando forte di portare dentro a Marcelo, che sono molto amici, poi hanno una tattica di gioco micidiale, se poi al centrocampo arriva anche Isco, allora la Juventus non avrà più avversari, già ne ha pochi, ma non ne avrà più, però c'è un sacco di soldi. Lo so che c'è un sacco di soldi, ma la Juve c'è già, la Juve c'è già perché è una squadra che vincente, no? E quando vinci i soldi entrano, capita, io lo credo, soprattutto se vince la Coppa dei Campioni, guai, e allora i soldi se ne sono anche truppi. Però siccome sappiamo che va sempre avanti e ne guadagna la parecchia, mi sembra che abbia incassato 80 milioni solo dalla Coppa dei Campioni, voi immaginate, ad esempio lì, insomma, 80 milioni già ha incassato o deve incassare, sicché i soldi ci sono e non è solo quello. Se va avanti adesso oltre gli ottavi arriva ai quarti e se poi arriva al finale e se poi ha la fortuna di vincerla quest'anno, speriamo bene, allora mi sembra che sono altri 250 milioni, se puoi immaginare. Già entrano i soldi, sì. E si è parlato anche di Mbappé, ma quello non credo che il Paris Saint Germain la molla, quello è un grandissimo giocatore. C'è da Dybala, perché Dybala lo vogliono, è sempre richiesto. Se vende Dybala e prende Mbappé, guarda, io sono contentissimo, perché Mbappé è più forte di Dybala per me, non ci sono dubbi sopra. Lo so, sì, hai visto il Cagliari che affarone che ha fatto? Amarella 50 milioni di euro al Chelsea, sembra che Sarri si voglia riprendere Higuaín lo stesso dal Milan, Higuaín sta facendo un pensierino anche lui al Chelsea, e il Chelsea diventa forte con Higuaín e Barella in attacco, attenzione. Sicuramente, se Higuaín va al Chelsea hanno veramente una bella squadra, veramente, soprattutto con quell'altro un giocatore famosissimo che ha, Cessi, l'attacco è eccezionale. Prima Cessi si deve attaccare con la Juve, se va a Cessi, perché la Juve mi chiede a pagare 50 milioni e allora può andare. Perché i guai è con la Juve, lo sai. Forse che mi rubino l'apparato. E mi ha pagato solamente 18 milioni, mi sembra. E praticamente per questo prestito, consideriamo un prestito, perché se va via adesso, e sembra che va via, perché non è contento di rimanere, perché l'ha criticato Leonardo a Iroi, e penso che se ne vada veramente in questo mercato d'inverno, di adesso. Però comunque che era Juve, che è in casa soldi, perché sono a Milan, guarda, se ne va a Milan, lei è vero, mi sembra ormai 36 milioni ancora alla Juve, perché se i guai se la fanno, magari se la vuoi, se la vuoi 50 milioni, e sono soldi anche quelli, Ocla. E sono soldi anche quelli. Ah, io voglio una promessa, guardando la quotazione in borsa, è la prima squadra italiana quotata in borsa a livello mondiale, ma stai scherzando, il Dorenca scende con Ronaldo, ui ui ui. Sì sì, ho letto, stavo leggendo sul computer appunto che il Chelsea ha richiesto, cioè perché c'è Zola, capito? A Barella l'ha voluto Zola, e quindi Sarri è contentissimo se Higuain va al Chelsea, perché intanto c'ha più spazio, ha più gioco e tutto, e ha più possibilità di chiudere una buona carriera. Milan sono convinto che non entra neanche, non potrà fare neanche la Champions, perché o l'Europa League, perché deve sistemare i conti. Deve sistemare i conti, come attenzione che c'è, ho letto anche l'Inter su Icardi, che vogliono dare, perché ne sta prendendo 6 milioni, mi pare vogliono dare 8 milioni di euro, ma lui si è stufato di stare all'Inter, quindi anche l'Inter, non so come esce, non so come esce, vediamo adesso la svolta a gennaio, tra gennaio e i primi febbraio o fine gennaio, come la situazione. E vabbè. Indubbiamente, sì, anche i Cardi, anche lui è un po' scocciato. Intanto la moglie pretende 9 milioni, perché la procuratrice dei Cardi è la moglie, no? Vanda Nara, come accidente si chiama quella donna, e vuole 9 milioni, vuole. E poi penso che si sia scocciato anche, perché in questa settimana è andato in ritardo alla Lazio, gli ha fatto 100 milioni di multa, gli ha messo l'Inter ai Cardi, 100 milioni, capita, sono milioni che prende, per cui sono non 100 milioni, 100 mila lire di multa, ma 100 mila lire, 100 mila euro di multa gli ha messo, perché è andato in ritardo all'allenamento. Quando c'è una mossa, non una mossa non si scherza, per cui deve darsi una mossa anche lui, se vuole restare all'Inter si deve adattare a quello che dice Marotta, perché Marotta, maledizione, è un grande manager, per cui sono sicuro che l'Inter per il prossimo anno farà una grandissima squadra, tanto è vero, sta sempre insistendo. Poi Modric, anche se ha 34 anni, però è sempre un gran giocatore, per cui vediamo un po' cosa succede. E così è qua. 100.000 euro di multa gli ha messo solo perché è andato un pochino in ritardo all'allenamento. Ma e va bene, prende tanti e dunque gliene mettono tante di multa, no? Ma io l'ho detto, ne parlavo proprio con mio fratello, Marotta avete voluto, allora vi biglietti le conseguenze, avete una gola cosa l'ha fatto, avete una gola, o giochi a pallone o continui a fare l'alcolista o a stare in discoteca, decidete cosa vuoi fare, infatti visto che l'ha lasciato a casa in tribuna per due giornate, quindi decidi cosa vuoi fare, perché Marotta è veramente un grande direttore generale, quindi stiamo attenti, perché se c'è spazio tanto fa una bella squadra, sono convintissimo. Sono una bella squadra. Già lo prende a Modric, già lo prende. Già lo prende, come ha fatto per Ronaldo. Qualche movimento strano lo fa, ma già lo prende a Modric, non ti preoccupare. Ma ce n'è un bel partenza dell'Inter, tu vai a vedere cosa rivoluziona Marotta. Sono convintissimo, guarda, perché Marotta è bravo a fare queste cose. Con la Juve si trovava meglio perché aveva Neved, che giocavano tutti e due d'azzardo sempre, però anche l'Inter c'è la buona possibilità di fare una bellissima squadra, sono convinto al 100%. Però devi stare attento, che Marotta non buffoneggia, se non stai a quello che dice stai a casa e non giochi, sì, Riccardi, 8.000 euro, più di 8 milioni di euro, più di 8 milioni di euro non, la società non, in questo momento non può offrire, ce l'ha scritto proprio su internet, sul tuo sport di internet, proprio dichiarato la Marotta. Se lei ne vuole 9, non lo so cosa succede, però c'era già un faccia a faccia Riccardi, dirigenza Inter, quindi se non due Riccardi devono comprare subito un attaccante forte, perché l'Inter è già scarsa a centrocampo, in più non va attacco, addio. La formazione è Decido, Romani, Bonucci, Spinazzola, Ernesto, Chedira, Bentancur, Bernadeschi, Ken, Ronaldo, se Ken non gioca allora né Chiellini nemmeno Di Bala. Lo stiamo leggendo adesso sul Topo 24, portiere naturalmente Cesini sempre, quella è la formazione per domani. Quindi Bonucci solo c'è, come vabbè farà il capitano Bonucci. E non è sulla Rai o su Sky? Ma non te lo so dire, io ormai lo sto guardando sempre col tablet, però ho anche l'affare, come si chiama, il cavo giusto, e lo guardo nella televisione, no? Nella televisione grande, 44 pollici, che ho nel salone, attacco lì e lo vedo in grande, lo vedo. Io mentre leggo di nuovo Cesni, Decidio, Rogani, Bonucci e chi era? Non ho fatto il tempo a leggerlo. Allora, Spinazzola, Erenchan, Chedira, Bentancur, Bernardeschi, Ken, centravanti e Cristiano Ronaldo. Sicché in attacco c'è Bernardeschi, Ken e Ronaldo. Adesso l'hanno tolta di nuovo la formazione. Sì, vabbè, un turnover. Soltanto di Coppa Italia, non vuole rischiare, perché poi c'è la Supercoppa. C'è la Supercoppa, mi pare il 16 c'è la Supercoppa e il 21 c'è il campionato, quindi è chiaro che deve per forza fare un turnover e vedere un po' cosa riesce a fare. Vabbè, ma la squadretta anche quella, tieni conto che la Juve c'ha 22 giocatori e se giocano 11 contro 11 i titolari contro le riserve, così chiamate, non lo gioco Gavinzi, infatti. Allora la formazione del Bologna è da Costa, Gonzale, vabbè, l'hanno tolta, non ho fatto in tempo a metterla, hanno messo anche la formazione del Bologna, va, se la rimettono già te la leggo. Ma per dirti, no, è giusto anche che li faccia giocare, se non li fa giocare in queste partite qua, i giocatori, anche questo Pence, è giovane, però è bravo, mi. Intanto già avevano fatto già qualche sessione di partita, una volta con la Juve, e l'avevano anche segnato, che è un gran bel giocatore. Lo vogliono in tanti, lo vogliono in tantissime persone, in tantissime squadre lo vogliono, anche adesso, perché è un giocatore promettentissimo, veramente forte. Spinazzola di quelli di quella di una volta, vabbè, è appena rientrato anche adesso dal famoso incidente che hanno avuto, è stato operato al ginocchio, però se lo sta mettendo vuol dire che è in grado di giocare, speriamo bene, cosa vuol dire? È giusto che li facciano girare comunque per riservarli soprattutto, perché ormai lo sappiamo, ma il sistema di Allegri è quello, far roteare sempre i giocatori della squadra, per tenere sempre sulle spine, proprio sul chi va, in modo che si trovano sempre pronti in qualsiasi avvenienza. Ronaldo c'è sempre, c'era scritto in San Carlo, Ronaldo gioca anche domani a Bologna. E vabbè, andare. E poi tu devi giocare. Lui è lì per giocare, ha riposato l'altra volta che poi è entrato sul secondo tempo, ha segnato un muro, perciò deve giocare. Deve giocare perché lì c'è bisogno di lui. Bologna in casa, sì, non è una grande squadra, però ho visto che ha un bel gioco, ha dei bravi giocatori, quindi bisogna stare attenti. Finazzola non mi pare non abbia mai giocato con la Juventus, era infortunato. Però se c'è Bonucci che comanda il gioco in difesa, da regista difensore, chiamiamolo così, Pjanic non c'è a centrocampo, chi gioca? Bentancur? Sì, Bentancur c'è, sì. Bentancur, l'altro è Chedira, l'altro è Chiedira, non me lo ricordo, non me lo ricordo più. Sì, sì, vabbè, diciamo che è una formazione che può anche andare, non è che non è male, lo sai, sono tutti forti della Juve, per cui, però è anche giusto che le faccia girare, dai. E poi se non le fa giocare in Coppa Italia, questi giocatori che giocano di meno quando le fa giocare, è giusto che sia così. Ecco, Juve, Isco, si può fare, il Real chiede 80 milioni di euro, sto leggendo adesso su Top Calcio 24, Isco 80 milioni vuole il Real Madrid per poterlo mollare, ma Isco è forte, speriamo che lo prenda, e magari si prende anche il Cancelo, e allora è una fatta per tutti, adesso che ci sono partenze, stavo leggendo, quelli appunto che giocano poco, capito? Quelli che giocano poco. Quindi da cavarne un 120 milioni di euro, mi pare, in due o tre giocatori, una cosa del genere, forse in due giocatori, due o tre, no, ma forse sono tre. Quindi con quella visita lì, se poi in cassa i 30 milioni di euro dal Milan per il passaggio di Higuain, Isco lo può prendere tranquillamente, no, e non tira fuori niente dalla tasca. È un bel giocatore, caspita. Un bel giocatore. Isco è un bel giocatore. Caspita, buon centrocampo a Isco. Potrebbe fare immediato lì, ciu e Gattibiglia più. Infatti c'è a titolo ora sopra su quella trasmissione c'è scritto i tifosi juventini gongolano due punti, Isco è il grande obiettivo, e hanno detto certo, è un gran giocatore, poi naturalmente tutto può succedere, chi lo sa, però se lo sta prendendo la Juve vuol dire, cioè, se lo vuole prendere la Juve sa quello che fa, ce lo sappiamo, la Juve lo so Matteo. Nella Juve c'è gente competente, incominciando da Paratici e da Coso e da Nedved, se lo prendono lui vuol dire che lo sappiamo. E poi c'è anche il presidente che non è Macquia, c'è anche lui, uno che se ne intende, perché è cresciuto a mezzo al calcio, si può immaginare, perché è della famiglia degli juventini, per cui anche lui già è uno che non a caso è il presidente della Lega Europea, e a quanto sembra il prossimo anno o fra due anni massimo si farà una terza partita per la Coppa, non so cosa, europea, non so come la vogliono chiamare, oltre alla Champions League fanno anche un'altra Coppa ancora, una specie di campionato internazionale. Sì, l'ho visto, organizzato sempre dalla Juventus Club. Allora, perché lui è diventato presidente adesso dell'Europa, per cui si può immaginare, non è matto, è giovane, è quello della Uia, mi sembra che ha 43-44 anni, che si può immaginare, è anche molto giovane, Andrea Agnelli. E poi non è il scemo, cioè uno che mantiene piede la Fiat tra lui e il cugino, vuol dire che non sono due stupidi, no? Dico io. E poi i soldi di essere solo. Se basta pensare cosa è incassato la Fiat, mi sembra che è incassato nel 2018, è incassato 1.380 milioni di dollari o di euro, ma non so, figli, se ne è cacciato un po' con gli altri. Vabbè, siamo veramente, guarda che verrà. Vabbè, comunque vediamo adesso come cosa salta fuori in questo mercato di gennaio. So comunque che qualcuno è in partenza, di quelli che giocano poco, di quelli che giocano poco. E quindi ci sarà l'acquisto sicuramente, vabbè, a parte il centrocampista nuovo che è arrivato, però qualche ritocchino lo fanno, perché Ronaldo sta spingendo molto, che vuole giocatori del Real, perché lui si trova molto bene, soprattutto con Marcello, con Isco. Poi siamo per le, appena non lo vanno, però sarebbe un sogno che arrivassero tutti e tre assieme, ti immaginaci, a livello proprio di Real Madrid di qualche anno fa, imbattibile proprio. Allora ci sarebbe la chiamata Juventus o Real Madrid, tutto un nome. Lo so, sì, beh certo, sono giocatori straordinari, e Real Madrid è sempre una squadra che ha grandissimi giocatori. Sì, tu basta pensare a cosa è successo a Real Madrid quest'anno, che non ci sono più gol. Io mi faceva solo Ronaldo, per dire, no? Ronaldo nel 2018 ha giocato 5 mesi per il Real Madrid e ha segnato più gol di quanto ne ha segnato qualsiasi giocatore del corso del Real Madrid, che ha giocato tutto l'anno intero, tipo Bale ad esempio, Benzema eccetera, no? Per dirti, non è importante Ronaldo. Diciamo che Sasso, ma per Real Madrid c'è Pastorino, Berardino, ma diciamo qual è bravo me? Bene è molto bravo lo stesso, poi c'è Sergio Ramos, Rengamba, capita, l'altro Benzema, tutti grandissimi campioni, no, Real Madrid ha dei grandi campioni, solo che adesso gli manca quello che faceva i gol, perché chi faceva i gol era Ronaldo, anche se c'era la squadra che aveva lui tutto il suo servizio e a lui lo metteva in condizioni, però mancato Ronaldo, non sta più segnando, no, infatti non è certamente come la prima, no. Lui adesso sta soffrendo molto. Sicuramente si riprenderà, perché Real Madrid è sempre una grande squadra, faranno forte lo stesso, non ci sono dubbi. E in centro sarà sempre una squadra da battere, non è certo una squadretta, ma per dire, chi faceva andare avanti forte era Ronaldo, con tutti i gol che segnava, capita, non lo so più, in quell'anno aveva segnato 15 gol solo in centro, si può immaginare. E del 2018, per dire, no, erano tutti i gol che del Real Madrid, no, è tanto per dire una, in tutto avevano fatto roba, il 49 gol avevano fatto su 50 partite, una cosa del genere, si può immaginare, arrivati il 90 di gol, e adesso lo sta dimostrando anche in Italia, visto, nonostante che ancora non si è adattato benissimo al gioco della Juve, e nonostante che sta giocando anche da difensore, tutto sommato sta giocando anche, non è punta a punta come era con Real Madrid, ha già fatto quasi un gol a partita, per dirti, no, per cui arrivate di nuovo a fine campionato, io penso che vinca anche il titolo di capocannoniere. Sì, beh, il girone di andata è il capocannoniere, quindi adesso sicuramente ne farà altri, perciò, però, anche se non li fa, cioè, gli assist sono i suoi, il gioco c'è, le palle arrivano, però a lui che le dava i palloni d'oro nel Reale era Marcello, dalla fascia, da centrocampo arrivavano molti, capito? Quindi una grande squadra sempre, anche se quest'anno ha calato un pochino, penso che non sia prima neanche nel campionato spagnolo, però è sempre una squadra da battere. Ma per me, guarda, la squadra da battere quest'anno è il Manchester City è gioco che l'ho visto, Madonna santa. Vediamo, io spero che si possa fare il colpaccio, campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Speriamo, se no è stato fatto un grande sacrificio per niente, non lo so. Quindi le 8 meno 10 sono, dai, io ti saluto, siamo la Rezzico in radio, Jimmy, non mi dico, non abbiamo fatto radio, e non si è sentito un cane, oggi sono rimasto a casa apposta per accendere un po' la 27 e vedere un po' se c'era la possibilità di attirare qualcuno, ma con tutti quelli che stavano ascoltando nessuno si è permesso neanche di fare un saluto, vabbè, pazienza, li salutiamo noi comunque. Grazie per averci dato almeno il supporto di ascolto. Che ne passo il cambio, Giulio, poi chiudo che vado a sistemarmi il cane e faccio un colpo di telefono a cognata per vedere se mi butta a girare la macchina domani. Ci sentiamo, ok? Se sono a casa domani ci sentiamo lo stesso, perché se è tempo brutto non ando a lucco. Se decidiamo di andare in pizzeria già andiamo una volta verso quest'ora, pure che andiamo presto, per cui la partita della Juve alle 8:30, perciò non ci sono problemi. Sì, ci sono le altre partite, c'è anche il Cagliari, c'è per quello, mi sembra che gioca verso le 5, una cosa del genere, ma no, quello non mi interessa, no. Sì, ogni tanto c'è anche l'Inter, sono un po' tutti, dai, ci sono. C'è Torino Fiorentina, c'è Napoli anche, perché no? Ci sono tutte queste squadre, c'è il Milan anche, ma quella che mi interessa è quella della Juve, quella della Oce, per cui possiamo fare la radio anche domani, no? No, non è un problema qua. D'accordo, siamo qua, allora, grazie per la chiacchierata, buona passeggiata, compriti bene, attrezzati bene anche le cuffie, eccetera, perché c'è troppo freddo fuori e se sei mezzo preso non si sa mai, ossia che ti aumenti. Compriti bene qua, ciao qua, a domani. Grazie ancora per la chiacchierata, ciao. Ciao Giù, non abbiamo fatto i cardi di radio, gira i due gemellini, gli brucio la mano, già è bella calda, almeno si è un po' ricaricata le batterie. Sì, già ci sentiamo domani, dai, tranquillo. Sì, adesso mi copro bene, perché sono tutto a dolore, infatti non vado da nessuna parte, sto a casa, se no è un casino. Ciao, a domani, buona cena, buon tutto, salutoni a casa, ciao ciao. Ok, ciao. Infatti ieri notte ho ascoltato anche di notte a 3661 in 80 metri, stavo ascoltando, c'era un bel questione di persone che parlavano italiano e dunque ho ascoltato anche ieri notte. Vabbè, quando mi sono collicato. Vabbè, ciao, alla prossima, ciao. Ciao Giulio, ciao.